This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Days sales event. They have a whole lineup of rugged, all-wheel drive SUVs, CR-V, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HR-V with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Days clearance pricing today. Ciao amici, welcome to Geronto Gamer. Ci va su già sulla pasta e fagioli. Oh, hai sbagliato qua sulla vagliata. Oh, Simu. Oh, hai su già sulla pasta e coratella. Tutto a posto, Simu. Oh, che è? Mi fai spaventare, mi parevi morto. Mi sono addormentato. Questo gioco è un po' noioso. Che mi hai detto? Come si chiama? Si chiama la ragazza che sussurrava agli unicorni vomitatori di arcobaleno. Lo vedi? Mi sembra un po' così. Una palla. Ma no, poi quando lei comincia a usare gli unicorni per colorare a morte i nemici, diventa figo. Te dove sei rimasto prima che ti addormissi? A lei che riceve l'uovo dell'unicorno. Ma inizio! E sto gioco mi ha rotto il cazzo da subito, ma non c'è niente di un po' più movimentato. C'ho sto gioco che si chiama Deep Terror. Promettente, promettente. Parla di pericolosissimi zombie alieni provenienti dallo spazio profondo. Ma che è un gioco dell'orrore? Sì, dicono che sia un gran survival horror. E poi ci stanno pure i fantasmi marziani! Ma non c'è qualcosa... Ma perché? Che c'è paura? Mi sei diventato un fifone! No, che io? Assolutamente! Guarda, fallo partire che intanto vado da là a prendere un bicchiere d'acqua. Vabbè. Oh! Simone! Vabbè, io sono qua, ti aspetto, non comincio fino a che non torni, Italian Podcast Network presenta Fatality. Excellent. Dietrologia videoludica. Il lato B dell'industria del videogioco. Lunedì 19 gennaio 2015, secondo appuntamento di dietrologia videoludica per questo nuovo anno, una puntata che possiamo definire assolutamente speciale proprio perché è uno speciale, quindi è un enorme involucrone all'interno del quale parleremo di un argomento di cui ovviamente faremo menzione più tardi, ma già in anticipo erano già pronti in studio, già seduti, cioè, ci sono... Giuseppe Saso. Buon salve a tutti e buon 2015. Ciao Giuseppe, sei pronto? Caldo? Questo è un puntatone. Sì, sono pronto e se vuoi pure con i colpi di tosse. Pure con i colpi di tosse. Lo so, purtroppo questa è la stagione, siamo tutti un po' acciaccatini e c'è anche Gianluca Santilio. Yeah, ciao, salve a tutti. E mi ho portato il raffreddore invece. Peppe la tosse, ci siamo organizzati. Sì, uno porta una cosa, uno l'altra. Vediamo se magari qualcuno porta la scagazza, chissà. Quella ci mancherebbe, guarda, sarebbe bella. Pensate, Gianluca Santilio alla seconda puntata consecutiva su dietrologia videoludica. Il che, insomma, significa che poi tra l'altro la prima puntata, quella sull'horror, è anche piaciuta parecchio, quindi... È vero, è vero. Se ti è piaciuta l'argomento, vabbè, ci aiutava abbastanza, sì, lì, perché insomma era molto invitante. Beh, comunque anche oggi secondo me è un bel tema, un bel molto tema, bello, un bel temone grosso. Infatti, proprio per fare questo speciale, purtroppo non ci saranno rubriche, nel senso non né accessi anticipati, né multiplayer, né passione sound design, niente, ma andiamo direttamente, adesso entriamo nel sodo ovviamente della trasmissione, lanciando la parte centrale, ma non prima ovviamente di dire i riferimenti della nostra trasmissione, che sono www.dietrologiavideoludica.it, dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra posta elettronica, Dietrologia Videoludica la trovate su Google Plus e Facebook, ci sono le relative pagine, ovviamente su iTunes, e vi abbonate. Allora ragazzi, io penso che Giuseppe, stiamo per far entrare anche gli altri membri sì, della trasmissione, ma soprattutto colui che ha ideato, che ci ha proposto questo tema, che noi eravamo lì ogni tanto dicevamo, ma lo facciamo questo tema, non lo facciamo. L'unico buono, l'unico grande e illustre, no? Esatto. Esimio. Benissimo, allora detto questo entriamo nel vivo, così facciamo entrare anche gli altri che vedo che si stanno lentamente accomodando in studio, e andiamo con Osservatorio Dietro Ludico. Esatto. Osservatorio Dietro Ludico. Perfetto, entriamo nel vivo della trasmissione, che è una puntata un po' particolare, infatti possiamo considerarla quasi uno speciale. Allora, Giuseppe Saso, cioè, già l'avete sentito, Gianluca Santilio, cioè, già l'avete sentito, e ovviamente già anche la seconda puntata consecutiva addirittura su Dietrologia Videoludica, quindi dopo quella sui giochi horror, che tra l'altro è piaciuta tantissimo, quindi questo ci fa veramente piacere. Abbiamo l'ideatore di questo episodio, perché ovviamente le idee buone vengono sempre dalle persone buone, Luigi Marrone. Grazie, ma ovviamente sei troppo buono tu, Simone, come sempre. Ma io, tu lo sai che io sono poco buono, se lo dico vuol dire che lo penso. Sì, okay. E dopo un po' di tempo, perché c'è stato abbigiato per un po' di tempo, ma non è bigio, abbiamo Carlo Burigana. Ciao a tutti. Che è un po' male. Oggi anche, vi parlo proprio dal, non so, con tutta la potenza della fibra di Telecom a mia disposizione. Grande. Mi sento un po' l'architetto di Matrix, no? Immaginatemi seduto sulla poltrona con tutti gli schermi che dietro di me, insomma, è tutta una roba meravigliosa, proprio questa sensazione proprio di... Bello, bello. Allora, forse la chiamata era meglio la facevi tu. Esatto. Va bene. Comunque Carlo, che ovviamente sapete, anche se ogni tanto non lo sentiamo in puntata, c'è sempre la sua fantastica passione sound design, oltre a tutti gli assets generali della trasmissione. Allora Luigi, una puntata, sì, speciale, perché è una puntata che, di cui l'altro anno qualche utente ci aveva già fatto magari qualche accenno, qualche riferimento, però poi siamo stati un po' distratti, devo dire la verità, fino a che ovviamente tu non hai proposto l'idea. Allora parliamo, sì, dell'idea, e così poi entriamo anche nella discussione, perché è veramente un bello specialone questo, abbastanza interessante. Vai. Dunque, è nata la cosa dopo, io scrivendo su PlayStation Magazine mi ritrovo molte volte a portare avanti dei discorsi su delle recensioni, su degli speciali di software house che sviluppano qui in Italia, e così girando un po' per scrivere un articolo in rete mi sono imbattuto su, mi sembra, su uno speciale su Wired.it, se non sbaglio, sì, mi sembra su Wired.it, su i videogiochi sviluppati in Italia dai tempi dell'Amiga ad oggi, che poi ho scoperto che era abbastanza inesatto come articolo, come riferimenti, però mi ha dato lo spunto per, diciamo, per voler creare questo momento di incontro fra di noi, nel quale parlare dello sviluppo dei videogiochi in Italia e di un po' delle suggestioni, delle sensazioni che il videogioco italiano, per chi ha ovviamente esperienza con il videogioco ai tempi, diciamo, dell'Amiga, ai tempi delle macchine Commodore, Spectrum e via cantando, ha potuto registrare, e quindi ne può magari parlare in questo podcast. Ho giocato con vari argomenti, quindi diciamo affronteremo diverse cose durante questa puntata, sperando insomma che sia di gradimento a chi ci ascolta. No, è veramente, e qui facciamo già subito il primo velocissimo giro d'opinioni, è veramente una questione, un tema abbastanza interessante, anche perché non soltanto magari ci fa fare facciamo anche magari un piccolo excursus su quello che è stato poi ovviamente il panorama dello sviluppo in Italia, ma possiamo fare anche il punto dell'industria in Italia, perché e per come poi tra l'altro di quella che poi oggettivamente, no, a livello europeo è un po' mancata, no? come sì. Tipo di industria dal punto di vista dell'investimento del nostro paese. Poi sono tantissime ragioni, però è chiaro che è una ragione, ci sono anche delle ragioni storiche, è un fattore storico, cioè nonostante poi alla fine vedrete anche ascoltando l'episodio, per chi non lo sa, insomma, ci sono anche delle sorprese, alcune per esempio personalmente magari anche distrattamente neanche lo sapevo, quindi insomma alla fine in realtà poi mi fa piacere che c'è anche comunque una certa eccellenza, c'è anche un adesso un sottobosco come sta ovviamente succedendo in tutto il mondo, e tra l'altro e poi magari potete fare una vostra piccola opinione introduttiva a tutti quanti. Anche con Giuseppe abbiamo preso, poi tra l'altro abbiamo una piccola esclusiva, parleremo poi in una prossima puntata di un videogioco ovviamente sviluppato in Italia, per ora non diciamo niente, così almeno attendiamo insomma di concretizzare un po' la questione. Allora Gianluca, eccomi. Dico come tema, dico, è un tema abbastanza, è molto molto interessante, perché fra l'altro ho sempre avuto questa fissa di fare qualche cosa relativa ai giochi italiani, no? Tipo magari, che ne so, una serie di recensioni sui giochi sviluppati in Italia. Molto interessante come tema, e un campo in cui secondo me noi ci abbiamo messo tanto a imparare alcune regole fondamentali. Quello che mi è sempre mancato nei giochi italiani è un termine che utilizzano molto gli inglesi, cioè polished, ovvero i giochi lucidati, no? Adesso si usa tanto, oggi si parla metà inglese e metà italiano su internet. Questo termine si usa per indicare quei giochi che sono effettivamente ultimati, rifiniti per bene, in un momento in cui si va patinati, diciamo. No, ma proprio rifiniti, guarda. Ah, rifiniti è il termine migliore, effettivamente. È il termine migliore, esatto. Se uno guarda la storia dei videogiochi italiani, si notano tante belle idee, anche tanto codice di qualità, però poi alla fine magari mancava completamente il game design, il level design e così via. Per fortuna adesso sembra che ci stiamo professionalizzando un bel po'. Ci sono realtà indie molto molto concrete, insomma molto promettenti. Tra l'altro oggi proprio casualmente mi sono imbattuto in un gioco che è in produzione in Italia di un team che si chiama Breaking Bytes, che è uno sparatutto che secondo me può venire fuori veramente molto bene. E comunque ci sono tanti team interessanti. Nel medio budget abbiamo la Milestone già da tanti anni, quindi anche lì ci stiamo muovendo, e tanti piccoli team stanno addirittura stringendo accordi di esclusiva con nomi come Microsoft, Sony e così via. Quindi forse qualche cosa sta cambiando, vediamo. C'è ancora da aspettare un pochino. Anche se poi in realtà, voglio dire, anche se indirettamente c'è un po' d'Italia anche in un gioco AAA che esce a febbraio, insomma, quindi e come no? Però quello insomma, diciamo, vabbè, lo possiamo anche bypassare in questo specifico caso. Invece Carlo è uno è un ragazzo che è stato videogiocatore per molto tempo, però magari la scena italiana magari l'ha osservata un po' in maniera forse un po' più distratta come me, però cioè, nonostante suppongo insomma che sia un tema sempre da affrontare, anche perché poi voglio dire un po' d'orgoglio anche noi insomma vogliamo tirar fuori prima o poi, no? Ma sai, io la scena italiana l'ho vista sempre su PC, perché insomma al tempo sono stato anch'io videogiocatore PC, all'alba proprio della mia carriera videoludica. E quindi tu l'Amiga l'hai saltato? Sì, no, io Amiga e Commodore proprio per me erano le classiche cose che vedevo a casa dei miei amici. Esatto, io non ho mai avuto niente di simile. E la mia prima macchina da gioco di fatto è stato il Mega Drive, per cui ho cominciato diciamo relativamente tardi. Poi da lì sono passato al PC e poi ho preso la deriva console, con la quale ancora sono legato completamente a doppio filo. Però io mi ricordo, insomma, tra l'altro, anzi, ringrazio Luigi perché tutta la documentazione che lui ci ha fornito per insomma per la puntata e tutto il resto mi ha fatto venire in mente anche una cosa, che io un gioco italiano ci ho giocato e come, che era Screamer, che probabilmente voi ricordate sì, anche no. Insomma, che è un gioco Milestone, non sapevo che fosse Milestone, insomma io al tempo giocavo al gioco di macchine, al gioco di guerra, al gioco di botte, cioè per me quello era non è che, cioè, no, che se, così, se avessero dei nomi ma guarda c'è una ragione culturale anche in questo, eh? Cioè c'è sì, una cosa sì, che deriva poi dalla notte dei tempi. Scusa Giuseppe, no, dico, invece io devo, visto che volevo entrare a gamba tesa con quello che ha detto Carlo, devo ringraziare pure Luigi, perché io non sapevo che Jackie Do invece era pure italiano, che è stato uno dei migliori picchiaduro a scorrimento sì, sull'epoca PlayStation 1. Mo io non voglio dire, però c'è un motivo per cui Luigi è un professionista e noi no, esatto. No, quello non l'ho mai messo in dubbio, insomma. No, vabbè, dai, era anche per scherzare, Luigi. Vabbè, allora entriamo allora cicciosamente sì, nel tema, Luigi. Dunque, io ho scritto una prolusione per far inquadrare sia ovviamente a voi che partecipate, sia come reminder a me, come recap di tutto quello che parleremo, sia chi ci ascolta, una breve prolusione in cui vado a fare una sorta di diciamo giro attorno a quelli che sono gli interrogativi che secondo me dovrebbe su cui posare più l'attenzione, magari sviluppare il discorso in questa puntata. Dunque vado a leggere dal documento: 21 milioni di giocatori censiti, un terzo della sua popolazione totale, è il quarto mercato consumer in Europa, il nono a livello planetario con oltre 1 miliardo di euro stimati. Eppure in Italia si gioca molto e si crea poco. Perché? Perché l'Italia dei videogiochi non si è ancora sviluppata con successo? Perché esistono ancora leggi poco snelle, mancanza di finanziatori, piccole software house che non decollano o crollano il giorno dopo? Cosa delle infrastrutture, degli investimenti e delle professionalità di settore blocca lo sviluppo italiano dei videogiochi? Con la diffusione endemica delle console, della prima PlayStation ai giorni nostri, lo sviluppo delle grandi produzioni in Italia non è mai riuscito a tenere il passo con altre realtà europee, americane e giapponesi. Non è mai esistita l'equivalente di una Konami o una Rockstar in Italia. Malgrado questo, limitatamente ai propri confini, raramente oltre quelli d'Oltralpe, gli anni 90 hanno visto svariate produzioni italiane, in special modo su macchine Commodore, che lasciavano credere alla fioritura di una scena nostrana. Dietro l'ideologia videoludica è qui per parlarne. Esatto. Perché poi il fulcro del discorso, e poi andiamo anche nei cinque temi, gli cinque argomenti fondamentali, però è già da qua, che poi la domanda che faccio, noi parliamo di milioni, allora tu hai detto 21 milioni di giocatori censiti. Sì. Bisogna vedere poi se censiti si intende 21 milioni di persone che acquistano o se videogiocano in senso anche videogiocano si intende qualsiasi piattaforma, ti parla anche ovviamente di Facebook con il giochetto insomma Candy Crush con cui Simone sì, vabbè, ci, sì, ci invia un miliardo di dollari l'anno, insomma ragazzi è un mercato ricco dove mi ci ficco fondamentalmente, sì, nel senso che non è una cosa, non è un parcheggio da trascurare, non a caso è uno dei pochi paesi e una delle poche lingue dove molti videogiochi vengono anche doppiati, no? Questo è un discorso che Carlo abbiamo fatto tante volte. Tu Luigi ti sei dato una risposta su questo perché? Guarda, sono andato a ritroso più che altro, nel senso che ho fatto una riflessione all'indietro dopo aver diciamo scambiato con Mauro Fanelli di Mixed Bag, che ricordiamo è una software house torinese composta da soltanto due elementi, Mauro Fanelli e Andrea Gelato, che hanno appena pubblicato qualche mese fa un gioco che forse voi conoscete, si chiama Futuridium sì, EP Deluxe. Ah sì, sì. È uscito diciamo su PlayStation Store, ma è stato sviluppato in passato anche per PC, per iOS. Insomma è un gioco che io ho recensito molto volentieri perché mi è piaciuto tantissimo, e loro parlavano in uno dei loro speech che hanno tenuto, tra l'altro lo trovate anche su YouTube, a Politecnico a Milano, di come la scena indie si sia molto molto avvicinata a quelle che sono le esigenze anche di piccoli sviluppatori formati anche da due persone come loro, andando a migliorare molto le infrastrutture che prima invece erano proibitive. Quello che sono riuscito a comprendere è che molto del resto dell'Europa, quindi escluso l'Italia, è molto più facile il discorso, è molto più agevolato il discorso di pubblicare, di vedere, di ritrovarsi con un'attenzione importante affinché ci possa essere, diciamo, una rilevanza sul loro prodotto, sui loro prodotti e su quello che stanno sviluppando. In Italia già il semplice fare impresa, per intenderci, è un qualcosa di proibitivo, passano mesi affinché tu possa essere riconosciuto legalmente e cominciare quindi un'attività di impresa, dove invece in Inghilterra la apri un'impresa in un giorno, due giorni massimo. Questo è un punto che poi affronteremo, però io da qui sono tornato indietro e ho fatto un'analisi anche su quello che riguarda il mercato italiano dei videogiochi e sulla pirateria in particolare. Noi siamo stati, diciamo, l'unica nazione presente in Europa a legalizzare a livello industriale la pirateria. Quindi non avevamo una percezione di quello che significava rubare la proprietà intellettuale altrui. Questo per anni è andato avanti, quindi non c'era una legge che proteggeva i diritti d'autore o la proprietà intellettuale, quindi molta gente comprava e andava a acquistare nei negozi i dischetti, i floppy disk, le cassette copiate, eccetera, senza commettere un illecito. E questo ovviamente ha bloccato lo sviluppo dei videogiochi in Italia, perché molti sviluppatori non se la investitori non se la sentivano di investire su sviluppatori quando c'era questa mercato così, certo, dilagante della pirateria. E questo era una... Guarda, ti interrompo proprio per riprendere uno spunto che ci diede a suo tempo Bonaventura Di Bello, sì, quando lo intervistammo per Archeologia Videoludica, e lui disse una cosa importante, che non era soltanto il fatto della pirateria legalizzata, ossia il fatto che non esisteva una legge per il copyright sul videogioco, ma il fatto che si potesse vendere le cassette in edicola con 10 giochi è stato forse probabilmente quello il reale problema per la nascita di un'industria, perché un programmatore in Italia per fare l'avventura, per fare il gioco platform, per fare qualsiasi altra cosa veniva pagato 200-300 mila lire, sì, per fare lo stesso gioco in Inghilterra magari gli davano 5 mila sterline. Ok, sì, cioè sì, nel senso che è stato proprio sulla fase protozoica, diciamo, del nascere dell'industria e del concetto anche di sviluppatore, programmatore in Italia, che si è autocastrata la cosa, no? Nel senso, certo, che certo, chiaramente. Perché io devo investire e fare una software house e dare a te dei soldi quando in realtà al ragazzino gliene do 200, gli do 200 mila lire, o me lo traduce o me lo, no, ma forse o me lo fa solo così, questo, insomma. La cosa peggiore era che c'erano industrie che praticamente guadagnavano col tuo lavoro di sviluppatore, sì, cambiandogli semplicemente il nome. Quindi io prendevo, certo, sì, magari sì, non anche tutto il gioco, qualche livello, lo mettevo su cassetta, fatto, certo, il gioco, mettevo stavano una schermata finale, ciao. Questo è ancora peggio, ma conta che in Inghilterra, tra l'altro, oltre che al discorso di quanti erano quantificabili gli emolumenti per chi sviluppava, era che tu non trovavi, se tu avevi sviluppato un gioco, il tuo gioco in una collection in cui tu pagavi 10 pounds per dire, avevi una collection di 20 giochi, tu al limite potevi trovare il tuo gioco a 2 pounds a livello budget dopo un anno, due anni che era uscito magari sul, certo, mercato, ma era il, certo, tuo gioco era unico, non lo trovavi altrove, quindi comunque le entrate ti erano garantite. E infatti pochi che riuscivano in qualche modo a fare soldi, se vogliamo, chiamiamoli così, i pochi fortunati erano quelli che avevano una distribuzione all'estero, fuori dall'Italia, pur sviluppando in Italia. E insomma, Carlo Santagostino ha parlato di questo anche in un'intervista che abbiamo fatto, come ti ricordi, a Milano, di questa, sì, legata a questo discorso. La situazione era assolutamente non normata in Italia, e questo secondo me è inficiato anche la percezione culturale che si aveva della professione del videogioco. Il videogioco era visto come qualcosa che dava da mangiare a chi aveva piratato industrialmente i videogiochi, cioè chi aveva messo su un'azienda per copiare le cassette, per scrivere dei programmi all'interno per decraccarli e per in qualche modo ridistribuirli con altri nomi, certo, cambiando magari lo stage finale, i riferimenti e bla bla bla. E quindi quelli, diciamo, delle famiglie dovevano tirarle avanti. Quindi i sindacati si preoccupavano di coprire il lavoro di queste persone e di garantirlo, piuttosto che di curare la proprietà intellettuale, di difenderla, che non c'era ancora una norma in Italia. La SIAE non esisteva, l'equivalente della SIAE negli anni 90, come invece c'era in altre zone dell'Europa. questo secondo me ha ribaltato completamente, ha stravolto la concezione sia culturale come veniva percepito il videogioco, ma sia l'attività professionale del gioco stesso. Mi piace pensare così, perché non voglio pensare che gli italiani siano degli beoti che non avevano il talento per sviluppare videogiochi di qualità come l'Inghilterra o la Francia o la Germania. No, no, però voglio dire, a 200.000 lire è chiaro che ti castrano già in partenza, no? Nel senso, ecco perché dico, poi la conseguenza in realtà parte da un elemento e si propaga in 100.000 direzioni, no? Perché poi è stato un po' questo anche il discorso. Giuseppe, io direi che in Italia poi c'è anche un problema culturale, diciamo la verità, perché poi alla fine in Italia, l'Italia è il paese dove per arte o per dignità di arte, diciamo, si tende a vedere soltanto tutto ciò che è classico, no? Quindi la letteratura classica, la cinematografia classica, la musica, cioè noi in Italia ce l'abbiamo sempre avuta, no? Come sul libro di fantascienza, quella non è letteratura, quella. Cioè, noi ce l'abbiamo un po' sto problema, no? Sì, anche perché comunque se già agli albori il videogioco, specie da noi, non veniva considerato come passatempo, no? Quindi non aveva la dignità che un pochettino insomma ha comunque ottenuto nel corso dell'ultimo trentennio. E poi almeno io te lo posso anche vedere un po' come dal punto di vista sia delle esperienze che vedevo quando ero piccolo di mio padre, che faceva analista programmatore, quindi non faceva videogiochi, ma comunque era un informatico che campava scrivendo codice, no? Battendo ogni giorno sulla tastiera, e anche un po' anche il mio passato, e ti sto parlando comunque degli ultimi 5-6 anni, appunto anche nel mio caso da analista programmatore, comunque tu a prescindere appunto dall'applicazione che vai a creare, se è un codice, se è un gioco, se è un'applicazione ora per smartphone eccetera, ti pagano comunque due soldi e tu devi anche dirgli grazie facendo straordinari su straordinari, quindi diciamo c'è sempre comunque quella sei visto comunque come un come una bassa manovalanza, no? Anche quelli che effettivamente, infatti, anche in queste aziende, in queste piccole aziende di software house, in realtà guadagnano, di fatto sono solo chi è che comunque ha creato l'azienda, no? Gli imprenditori. Oltretutto c'è anche il fatto che se voi, non so se vi siete mai informati su questo genere, ma comunque mentre ci sono almeno qua in Italia varie categorie riconosciute come lavoratori, non esiste la categoria del programmatore. Noi siamo, cioè chi è che fa questo lavoro, quindi scrive codice, è equiparato al metalmeccanico, sì e no. Quindi, con una ripartizione per un lavoro completamente diverso. Quindi tuttora comunque c'è una dignità che è ovviamente dei benefit che in realtà non corrispondono per il tipo di lavoro e le mansioni che vai svolgendo. Quindi chi è che è invogliato a queste condizioni effettivamente tuttora a perdere tempo dietro? Ed è il motivo per cui molti comunque se lo fanno come lavoro, magari addirittura anche in outsourcing, no? Perché molte aziende comunque tendono pure a prestare a bassa manovalanza ad altre compagnie più grosse, con ovviamente direttive che quindi ti vengono dall'alto, magari anche da gente che quindi di disegni, di applicazioni, di giochi, quello che è, ne capisce pure poco. Tu comunque tendi a fare il minimo indispensabile senza sbatterti troppo. Cioè è insita purtroppo questa mentalità italiana dagli albori, no? È una cosa che purtroppo ci portiamo dietro da 30 anni a questa parte. Beh, guarda, io c'avevo un amico che lavorava a Reply, sì, e faceva il programmatore. E ovviamente, cioè, nel senso, di fronte a un'azienda abbastanza grossa, comunque investivano su di lui, nel senso che hanno fatto fare i master, tutto spese dell'azienda. Ovviamente poi la persona, anche come dal punto di vista del proprio valore professionale, chiaramente è cresciuta, no? Nel senso, anche se lui si fosse poi posto sul mercato magari nei confronti di altre aziende, lui si sarebbe potuto porre in un'altra maniera. Quindi Gianluca, in realtà l'ultra professionalizzazione in Italia c'è, però a allora si pensava che se tu scrivevi giochini non potevi, non facevi nulla di serio probabilmente. Esatto. Ma, sì, sicuramente si andava verso questa corrente di pensiero all'epoca. Poi anche a livello culturale, no? Non credo ci abbia fatto bene giocare, sì, a queste compilation. Io secondo me mi sono diseducato in un certo senso, giocare ad avere compilation da 30 giochi, per dire, tra cui una parte di Impossible Mission, una parte di Harry's House, per dire, e così via, senza educarmi ai giochi completi. Quindi secondo me è stata una cosa negativa sotto tanti punti di vista. Noi in generale, poi italiani, siamo un po' lenti sul piano tecnologico a volte ad adeguarci agli standard stranieri, cioè penso anche ad altri reparti, ad altri campi, insomma un pochettino ci mettiamo di tempo in più. Però ecco, sicuramente il contesto politico, appunto sindacale, come diceva Luigi, non ci ha molto agevolato in questo senso. Quindi boh, vediamo per il futuro, insomma, adesso che c'è questa possibilità del digital delivery, quindi con pochi mezzi necessari per cominciare veramente a fare qualche cosa, secondo me possiamo partire. Peccato che in Italia non ci sia la possibilità di finanziarsi come in America con roba tipo, sì, Kickstarter o cosa del genere. Cioè il crowdsourcing, il crowdfunding, sì, in Italia è molto meno, cioè Indiegogo, insomma non è così di massa come Kickstarter. Però vediamo, insomma, speriamo che si possa fare qualcosa, qualche speranza. Sai che noi su tanti settori arriviamo sempre dopo, no? Magari, con calma. Ribadisco, c'è eccellenza da certi punti di vista e in realtà poi si arriva dopo, perché per esempio non so, ecco, per esempio Carlo può fare magari il raffronto su come magari l'Italia si è adeguata rispetto alla sua professione, rispetto magari all'industria americana, no? Nel senso che lui fa il sound designer, no? E da quanto tempo in realtà in Italia c'è una vera e profonda attenzione per quel tipo di discorso, magari rispetto a quello che potevano essere, che ne so, il lavoro che si faceva negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, roba del genere. E magari poi se possiamo fare un raffronto anche col discorso dei videogiochi in qualche maniera. Beh, ma in Italia il sound design non è ancora adesso un mestiere ben chiaro, non è ancora una professione ben riconosciuta. Il tecnico del suono, per carità del cielo, ovviamente sì, però quando anche ad alcuni capi struttura o che sono, insomma, gente comunque dell'ambiente, dici che fai il sound designer, ti guardano un po' come di bah, poveraccio, questo si sente chissà che, allora mi spara il nome in inglese, capito? Esatto, esatto, sì. Quando invece magari sta lì, alza i cursori, abbassa, esatto, i cursori, quando invece non è vero, insomma, perché sound design comunque è sì un lavoro tecnico, per carità, però è anche un lavoro che ha una mansione, cioè una parte molto molto artistica, e quella non può prescindere, perché sennò appunto sei tecnico del suono, con tutto il rispetto per i tecnici del suono, perché comunque io sono, mi reputo un sound designer abbastanza bravino, però magari ci sono dei tecnici del suono che fanno delle cose che a me mi danno una pista, insomma. Io lo accetto volentieri, questo divario, insomma, non, però questa attenzione, come chiedevi tu prima, al discorso appunto del suono qui in Italia rispetto a quello quanto si fa e a quanto si è fatto anche a decadi prima in America o negli altri paesi, è arrivato relativamente da poco, ed è comunque, sono degli sprazzi che abbiamo potuto vedere, insomma, in relativamente poche ancora produzioni italiane. Una fra tutte, io non scorderò mai di dirlo, è Gomorra. Gomorra, ricordiamo che, insomma, ci ha avuto dei costi di €1 milione a puntata, che non è una cosa, che è la prima volta in assoluto, penso, è la prima volta in assoluto che si fa si spende un budget simile per una serie di questo tipo. Poi certo, vabbè, insomma, magari in passato non è vero che magari, insomma, questa era più ricca, è vero che se la stanno di vista bene, nel senso, sì, beh, ma è stata fatta proprio apposta per, sì, esatto, ed è appunto come adesso un ragazzo italiano o un team di sviluppo italiano che fa un gioco, un videogame, lo fa per venderlo all'estero, sì, non solo per farci giocare i suoi compatrioti, i suoi connazionali, perché si sa che qui c'è un'economia relativamente risibile, insomma, per quello che è quel mercato, per cui la trovo una cosa, insomma, giusta, ecco. Però penso anche che adesso nella facilità fra virgolette di sviluppo e nel dominio che stiamo assistendo sugli indie, insomma degli indie, anzi sul mercato, che spesso hanno fagocitato e sono arrivati proprio a parlare di sé in una maniera incredibile, adesso io penso che è un po' il momento, no? Cioè adesso possiamo fare la differenza noi italiani, perché comunque abbiamo i mezzi che magari, ecco, prima 15-20 anni fa non avevamo, però insomma adesso ce li abbiamo, si può fare qualcosa, secondo me, adesso qualcosa di interessante. Benissimo, allora Luigi, sintetizzando sì. questa prima introduzione, possiamo dire che la pirateria ci ha schiacciato e quindi ha distrutto un'industria nel nascere, che oggi ancora un po' esiste una certa differenziazione tra ciò che viene considerato professionale e ciò che non viene considerato professionale, ma che il mercato indie in qualche maniera ci salverà, anche se non avremo mai un'industries vera, grossa. Sì, è una previsione ovviamente molto diciamo ben augurante, perché insomma paragonare poi il mercato indie alle grandi produzioni diciamo di più grandi software house che pubblicano in maniera planetaria e con dei budget molto più elevati, siamo lontani da quel tipo di target, quindi, e forse non ci arriveremo neanche, insomma, ecco non lo so. Su questo, ecco perché la prendo come un augurio, diciamo. Okay. Stiamo indietrissimo, perché il fatto che manchi l'eccellenza dello sviluppo del videogioco in Italia, come una Ubisoft, una Konami o posso dire una Rockstar, per dire, è qualcosa che fa riflettere, perché non abbiamo le infrastrutture per poterle generare. Se no, ma anche perché poi coder, grafici e tecnici anche, insomma, voglio dire, ne abbiamo sì. prodotti, ma stanno tutti a lavoro all'estero, chiaramente, insomma. Sì, quelli sì, bravi sì. stanno a lavoro fuori, chiaramente. Sì, ma perché non essendoci ovviamente valorizzazione qui delle risorse, e essendo invece sviluppata questa realtà e quindi riconosciuta anche culturalmente, professionalmente, a livello fiscale, le entrate, gli investimenti a lungo termine, è chiaro che tendono a tenere ben stretti e a cullare chi viene da fuori e dare delle competenze che qui in Italia invece non sono valorizzate. Ma questo certo. è endemico, e sappiamo che non riguarda solo i videogiochi, ma un po' diversi settori della cultura, così come diciamo delle attività professionali in genere. Bene, allora iniziamo sto viaggio, dai, così sì. vedo che così partiamo già col primo punto, perché io vedo delle cose qui che già fanno scendere le lacrime napoletane. In che senso allora. Non si sa, visto che la qualità non sempre. Poi te lo dico, sì. Allora, a questo punto lo sviluppo, lo sviluppato, e vado ad aggiungere poi anche il contributo di Mario, di Nonna Mandraiola, perché insomma nella discussione che abbiamo avuto poi sul forum, sulla chat lì di Facebook, ovviamente lui non potendo essere presente ma avendo contribuito con degli spunti interessanti, mi sembra giusto anche inserirli. Dunque io ho scritto: parlando di videogiochi sviluppati in Italia, molti videogiocatori italiani che hanno superato i 30 avranno giocato al tempo uno dei prodotti della Simulmondo, ad esempio, quali Mille Miglia, Over the Net, Pretty Soccer. È un capitolo derivato dai fumetti nostrani, quali Diabolico di Landog, oppure videogiochi sviluppati dalla Idea Software con i suoi Lupo Alberto, F1 Grand Prix Circuits o Moonshadow, o magari Big Red Adventure o Nippon Safe Sync o della Dynabyte. Di certo prima e durante i mondiali Italia 90 su Commodore 64 Amiga era facile imbattersi in uno dei titoli sportivi di calcio dei Dardari Bros, quali Italia 90 Soccer e World Cup 90. Voi quali ricordate? Cosa pensate del gaming italiano negli anni 90? Qual è il vostro videogioco italiano di riferimento e perché? Poi c'è stato, come dicevo, Mario, che ha parlato, ovviamente voleva che ricordassimo della Fu Olivetti, delle proprie macchine home, della produzione in BASIC, linguaggio macchina della Mondadori, che accompagnava l'enciclopedia venduta con Commodore 64, tutti i titoli nostrani che sono stati pubblicati sui primi 10 numeri di Load and Run, prima che diventasse appunto pirata, e il lavoro anche della rivista su cassetta per ZX Spectrum chiamata Run. Ovviamente si parla di nonna ci teneva a puntare l'attenzione anche sulle produzioni delle serie di riviste dedicate alle avventure grafiche, e c'è anche ovviamente Buonaventura di Bello di mezzo in questo, perché ovviamente parliamo di avventure testuali e semigrafiche. E niente, quindi fra tutto quello che è stato lo sviluppo diciamo italiano del videogioco a quei tempi, mi piacerebbe insomma affrontare la discussione su questi termini. Cosa ricordate, che idea avevate del gioco italiano al tempo, e in qualche modo insomma rimembrare, fare una sorta di amarcord di quelli che erano le vostre, quelle che sono state le vostre esperienze e le mie di gioco. Allora iniziamo il giro come l'abbiamo fatto prima, quindi Giuseppe, Gianluca, Carlo, poi poi dico una cosa velocissima io, sì. E poi ritorniamo a Luigi. Allora, vabbè, io ricordo tutte ovviamente, anche perché i titoli test elencati da Luigi li giocai quasi tutti, e soprattutto quelli della Simulmondo, specialmente in edicola, li acquistai e costrinsi mio padre a comprarli tutti, compreso pure, che non è riportato qua, ma quel fantastica opera che era in collaborazione con forse Rizzoli, non ricordo cos'è, a fascicoli dei Time Runners, che erano qualcosa come 50 uscite se ricordo bene. Sì infatti tantissime appunto, quelli che ricordo che comunque giocai molto, che mi piacevano, era uno che scoprì solo poco dopo un po', che era effettivamente italiano, perché dalle produzioni, cioè dalla qualità, comunque mi sembrava un gioco straniero, devo essere sincero, ed è anche perché se ricordo bene era la Ocean che lo portò, lo distribuì da noi, che era Over the Net, se non ricordo bene. Quello di Beach Volley, sì. Quello che poi di recente mi pare pubblicarono anche una versione su mobile, anche se... Che poi è una cifra di titoli sportivi, sì. Una cifra di titoli sportivi, prevalentemente corse e titoli sportivi. Overnet? Sai, sapete che io la Dynabyte non lo sapevo. Dynabyte, sì. Dynabyte, devo dire che ecco un altro che mi piacque molto, Big Red Adventure. Purtroppo, Safe Inc. Perché era quello per Amiga. Perché purtroppo Big Red Adventure è uscito solo su PC. Nippon Safe Inc. era fantastico. E poi anche perché era una delle tante avventure grafiche, e quando uscivano c'aveva l'italiano come lingua selezionabile, no? Perché ancora in quel periodo non se ne trovavano molte nella nostra lingua. E mi piacque molto. Oltretutto mi ricordo che lo comprai pure originale, perché se vi ricordate c'era all'interno di questo gioco un sistema di protezione che ti chiedeva a un certo punto una domanda presa dal manuale, quindi siccome non riuscivo a un certo punto ad andare avanti avendolo ottenuto prima piratato, sono corso dal negoziante di fiducia e lo acquistai pure originale. E poi ovviamente tutti quelli che comprai in edicola di Diabolic, di Landog, veramente cominciai effettivamente con quello che, se vi ricordate, uscì per Commodore 64 e per Amiga, che era Gli Uccisori, se non sbaglio. Da là praticamente, visto anche il grande successo, Simulmondo cominciò ed ebbe l'idea intelligente che, se notate, è una cioè, come noi siamo stati così innovatori, però poi non abbiamo saputo effettivamente continuare, no? Il discorso di fare effettivamente, lo potete vedere come i primi giochi episodici, no? Quelli che ora noi vediamo con Telltale eccetera, con queste serie, però là loro le facevano uscire in edicola ed era una serie di avventure che tu facevi col tuo personaggio preferito. Poi ovviamente avendo questi nomi appunto di questo calibro di Undog, Diabolic eccetera, e magari conoscendo già Progress il fumetto, sapevi che ti aspettavi ovviamente che fosse comunque realizzato da uno studio italiano, anche se non conoscevi a priori Simulmondo, no? Magari perché non eri molto dentro comunque nel gaming quegli anni. Sì, anche se a me facevano erano schifo, brutte, lo dico pure io. Erano dei platform orrendi, specialmente se vi ricordate con quel tremendo sistema di combattimento ravvicinato fatto di schi, dell'animazione della schivata e quella del colpo, che era micidiale. Poi venne anche brutti. E soprattutto col platform alla Prince of Persia, dove dovevi fare salti millimetrici, ricordo assurdi per arrivare in alcuni punti. cosa che purtroppo, ahimè, veniva anche ripetuto in un altro grande gioco, che è quello dell'idea, che era quello di Lupo Alberto, che ho sempre adorato, perché comunque mi ricorda, a parte che era curato molto bene dal punto di vista grafico, però purtroppo come platforming e level design lasciava, se vi ricordate, molto a desiderare. Moltissimo. Questi insomma sono i miei ricordi. Ero cosciente per questi giochi che fossero sviluppati in Italia, ma perché? O perché avevo il titolo molto italiano, sia il gioco che la Software House, o perché si rimandava a qualche personaggio diciamo noto ai fumetti del nostro tempo, no? Sì, io passando la parola a Gianluca, colgo l'occasione per dire che comunque prima della fine della stagione di archeologia videoludica faremo una puntata sulla Simulmondo, chiaramente, quindi era una cosa che avevamo promesso anche l'altro anno, e poi Gianluca non so se ci darà una mano ovviamente anche lui, perché volentieri l'abbiamo buttato dentro. poi con Gianluca, sempre per archeologia videoludica, abbiamo fatto ste puntate, le due puntate sulla storia dei giochi di calcio, no? C'era anche tanto. Insomma, allora c'era Italia 90, ragazzi. Allora, poi c'era un problema di fondo: che su Amiga per un certo periodo di tempo mancavano i giochi di calcio. Cioè, mancavano, nel senso, c'erano veramente pochi, e quei pochi che c'erano facevano schifo. E quelli che uscivano facevano ancora più schifo. Però c'era vedete, questa è una cosa tipicamente italiana. Non so se Luigi poi è d'accordo. E poi sentiamo ovviamente anche, ho detto, Gianluca e poi Carlo. Ci abbiamo questa cosa dell'intuizione, no? C'è un momento in cui arriva un concetto e proviamo ad espandere l'intuizione, che era quello del 3D. Cioè, quando iniziò la pubblicità di, io lo chiamavo i-Play 3D Social, quando sono andato al negozio di, c'è i-Play 3D Social, mi ha detto, guarda, si dice i-Play 3D Sacca. Che Vabbè, Sacca. Comunque, l'intuizione stava nel fatto che il 3D appunto poteva ampliare le possibilità, no? Cioè, poteva diventare veramente una simulazione, un'immedesimazione. Tu eri veramente là. Cioè, voglio dire, il gioco in quasi soggettiva di FIFA è nato 10 anni dopo, capisci? Cioè, nel senso, l'ho sognato tantissimo sto gioco, no? Non usciva mai, perché lo rimandavano sempre, non usciva mai, non chissà come mai è uscito. Quando è uscito era una cagata pazzesca il gioco, cioè, ma una cagata perché era proprio tecnicamente brutto, cioè nel senso era fatto male ed era acerbo, sebbene l'idea c'è stava tutta, cioè nel senso che comunque era una grande intuizione, insomma. Quindi questo è il primo ricordo. Poi questi giochi qua più o meno l'ho giocati tutti. Ti ho detto, l'unica cosa che non sapevo era il fatto della Dynabyte, che mi fa piacere il fatto di aver, che comunque un nome che comunque ha una sua posizione nella storia dei videogiochi, mica gli ultimi arrivati. Scusa Gianluca, vai. No, figurati. Ma io, per quanto riguarda i giochi italiani, sarò impopolare, però mi stavano un po' sulle scatole, perché come qualità erano un po' quelli che erano. E poi soprattutto la stampa italiana c'aveva sto viziaccio, e l'ha avuto per un sacco di tempo, di pomparli tantissimo. Sì, tu arrivavi a prendere un gioco italiano, io ho comprato due giochi originali. Vabbè, io penso che era normale. Sì, ricordo che Zapp e TGM, insomma, e anche K comunque tessevano le lodi abbastanza. Sì, tantissimi erano giochi. Erano tutti amici, ragazzi. Tutti amici. Cioè, ma io avevo due giochi. Ho speciale di qualcosa qua, di 4-6 pagine, ve lo ricordate, su K, su Dylan Dog, gli uccisori, dai. Sì, figurati. io avevo due giochi originali che comprai proprio a causa dell'hype dovuto a questa pubblicità. Il primo è stato Lupo Alberto, esatto. E sono stato comunque contento, no? Sì. Perché su Commodore 64 l'ho presi, su floppy c'era la musica di un bravissimo musicista, secondo me, che era Paolo Galimberti. E poi presi Top Wrestling di Raffaele Valensisa, che poi è anche bello che queste persone le trovi magari su Facebook, ci scambi anche due messaggi, e che era un gioco orribile. Ma ti ricordi quella zozzeria? ma quella l'ho programmato io. Ah, scusa. Sì, no, ma davvero, io, cioè, capita, a volte trovi nei gruppi sta gente, dico, cazzo, ho detto qualche cosa che non dovevo. E quindi, insomma, li pompavano tantissimo. Un'altra cantonata, per fortuna non lo comprai, fu Druna Morbus Gravis qualche anno dopo, che fecero una preview, mi ricordo, spettacolare, sembrava che sarebbe stato chissà che cosa. Poi una recensione un po' così, si intuiva che era un gioco venuto fuori malissimo. E quindi ecco, i primi anni, nonostante anche io i giochi che avete elencato prima li abbia giocati un po' tutti, penso che gli unici giochi che mi sono piaciuti veramente italiani sono stati Catalyst su Commodore 64, perché almeno dal punto di vista tecnico era qualche cosa di fatto veramente molto molto bene, meglio di tantissimi soprattutto più famosi, diciamo. E poi la serie Screamer, io mi sono divertito soprattutto con Screamer Rally, però stiamo già parlando di tempi più avanzati, insomma. Sì, quindi all'inizio anni 90, ecco, c'erano tante belle idee, però poi tu ci andavi a giocare. Non so se vi ricordate, per esempio, Warm Up della Genius, il gioco di Formula 1, con visuale dall'alto, che c'era una presentazione meravigliosa con una Ferrari che ruotava al centro dello schermo, animazione che all'epoca non si vedeva, non si era mai vista praticamente. Poi andavi a giocare e non c'era la possibilità di salvare. Dovevi fare un campionato di 16 corse, che ci volevano 8 ore, praticamente non potevi salvare. Quindi per questo parlavo prima dei giochi poco riciniti, perché alla fine mancavano dei pezzi per goderteli davvero. Quindi insomma, chiudo. Tu mi sa, Carlo, di questi giochi... Ma io Screamer, ripeto, Screamer che con piacere adesso realizzo che era un prodotto italiano, bellissimo, io ci ho perso veramente ore ed ore della mia vita, quindi ce l'avevo rigorosamente originale, poi ce l'ho ancora, credo, da qualche parte in cantina, scatolato, anche bello, devo dire, come pacchettizzato per il tempo, insomma, quindi... No, le altre cose che avete detto io purtroppo proprio non ho proprio cultura, ahimè, mi dispiace, insomma, nonostante non sia di certo giovane, un ragazzino, però non, appunto, capito? Però purtroppo non mi cogliete impreparato su questa cosa, insomma, perlomeno nel periodo appunto degli anni 90, poi qualcosina pian piano l'ho anche giocata. Io suggerisco ai ragazzi, ecco, ai più giovani che chiaramente magari non hanno avuto veramente modo per motivi cronologici, ma anche a Carlo che comunque magari fino a quel momento i videogiochi ne poteva fregare magari anche di meno, esiste ovviamente YouTube, lo sapete benissimo, quindi andatevi a ricercare soprattutto i giochi di Dylan Dog, perché comunque visivamente, cioè nel senso, erano molto molto belli i giochi legati ai fumetti, erano veramente particolari. Era chiaro, voglio dire, poi vi vedete anche un po' i videogiochi, cioè la gioia e il bello e il brutto purtroppo di un'industria che a quell'epoca, e bisogna fare comunque veramente un grande merito, un grande applauso comunque a questa gente che comunque alla Simul Mondo. Noi quando siamo stati a Bologna a fare le interviste a Andrea Tresseno per l'archivio videoludico e a Croci per l'associazione Tilt, che è una cosa fantastica, poi lo vedrete, insomma, faremo vedere qualche immagine prima o poi. Eravamo lì per lì, andare a vedere, ci stavano portando la vecchia sede della Simul Mondo, cioè ragazzi, per noi di quell'età lì, comunque, vuoi o non vuoi, successi o non successi, belli o non belli, Luigi, insomma, sì, sono stati comunque un mito, cioè nel senso, hanno comunque un'importanza, un significato anche dal punto di vista affettivo, no? Perché comunque era un modo anche per dire, oh, ci stiamo anche noi, no? Quindi era una sorta di riscatto. Insomma, per certi versi, diciamo che convivevano all'interno di una sorta di ecosistema con gli altri giochi più blasonati, per i quali riuscivi in qualche modo a sentire che l'Italia aveva un peso, perché lo sviluppo italiano, vedere i nomi italiani sui credits, sì, sui titoli di testa o i titoli di coda, esatto, era qualcosa di cui non eravamo fondamentalmente abituati in maniera così frequente. Quindi quando per esempio giocavamo, io giocavo Over the Net, per intenderci, io al contrario di Carlo avevo il Commodore 64 e il Commodore Amiga, quindi ovviamente mi sono permesso in parallelo li mettevi. Sì, io mi sono permesso di puntare attenzione solo su quelle mie esperienze, sì, però no ma va bene, PC anche aveva, certo, la sua buona fetta, insomma, di giochi italiani, anche la PS1 al tempo. Però quello che volevo dire è che ecco, magari possiamo passare direttamente al punto successivo, dove, sì, parliamo proprio della suggestione che dava il gioco italiano. Da parte mia, per questo discorso, avevo giocato sia Mille Miglia, sia Over the Net, sia Pretty Soccer, sia un paio, due, tre, diciamo, episodi di Land Dog. Avevo giocato Lupo Alberto, mi è rimasto molto nella mente Moon Shadow per Commodore 64, che era, diciamo, sì, era sviluppato dalla Idea Software, ed era qualcosa di assolutamente intrigante, sia a livello musicale che a livello di animazioni, che a livello di level design. Lo paragonavo, diciamo, lo giocavo in contemporanea con Turrican. Pensate un po' voi. Cioè, allora devo dire una cosa, visto che mi devo intromettere, scusate. Io a gamba tesa stentavo a crederci, cioè, no, per me non poteva, cioè, il momento in cui mi sono davvero sentito orgoglioso di essere italiano è stato quando poi ho realizzato che finalmente su Amiga esisteva un picchiaduro degno di quel nome, e non come quella schifezza, vi ricordate, della conversione di Street Fighter 2 sempre per Commodore Amiga, realizzato solo dopo l'avevo scoperto da italiani, e sto parlando ovviamente di Fighting Spirit, che la cosa brutta La cosa brutta è che Fighting Spirit mi pare sia arrivato nel 94. Sì, cioè, periodo tardo Amiga, però diciamo devi considerare che in quel momento comunque ancora i picchiaduro per Amiga non erano neanche definiti, e c'erano anche produzioni straniere tipo 96, ragazzi, esatto, tipo Body Blows, che diciamo anche quelle erano delle mezze fetecchie, dai. Sì, sì, però sai, Body Blows arriva nel 91-92, sì, esatto. Quindi comunque sia sei in corsa, tu dici, sì, vabbè, è venuto male, esatto. D'altronde un picchiaduro su Amiga con un tasto, secondo me, sì, comunque sarebbe stato difficile fare qualche cosa di veramente bello. Però almeno eri nei tempi, no? Sì. E ti fai fare un picchiaduro fatto bene, come lo era anche Shadow Fighter, nel 95, nel 96, è un po', non ti dico un esercizio di stile, ma è, alla fine conta il giusto, stai sfruttando una macchina molto nota. Come quelli che fanno Doom su Spectrum oggi, so, io dire. Oddio. Diciamo, eravamo proprio sul periodo morente dell'Amiga ormai, però non è che diciamo sì, ancora sì, completamente tirato le cuoie, oppure come nel caso dell'esempio di Simone, siamo decenni avanti rispetto a... No, vabbè, scherzavo, era una battuta. Luigi, sì, una cosa sola prima di andare al prossimo punto. Tu hai giocato ai Play 3D Sack, no? Come sì, diceva il negoziante. Giustamente, il negoziante. Sì. Cioè, nel senso, io non mi sono mai confrontato con nessuno su questa cosa, perché forse non ne abbiamo mai avuto, poi magari torneremo a parlarne da qualche parte, sempre su archeologia videoludica. Sì. Però quale, cioè, nel senso, quanto ci hai giocato tu a sto gioco? Perché io veramente poi dopo era una guerra, no? Nel senso, sì, allora guarda, conta che era il primo gioco di calcio che aveva diciamo uno sviluppo delle dinamiche 3D, era fondamentalmente, esatto, tridimensionale, come i giocatori bidimensionali ovviamente, però aveva una personalità forte, perché la possibilità di controllare un giocatore per tutta la partita, chiamare la palla, sì, il fuorigioco, la visione dal campo, quindi dalla linea, come vedono davvero i giocatori il campo, no? Era assolutamente innovativo, poi questo 3D molto fluido anche su Amiga, non dava assolutamente nessun problema, e l'ho giocato parecchio anche perché, ecco, era una di quelle esperienze che ti proiettavano oltre, era avanguardistico per i suoi tempi, e soprattutto ti dimenticavi che fosse italiano, aveva una sorta di risonanza un po' internazionale come realtà, non so se come spiegartela, era per quello che, diciamo, nel punto successivo la possiamo affrontare, però ti dico, Simone, che l'ho giocato tanto, l'ho giocato proprio tanto, i miei fratelli, e insomma è stata una delle, secondo me, delle cose non forse giocate a livello di calcio come potevano essere un Kickoff oppure un Micro Pro Soccer, per dire, però sicuramente era qualcosa di, ti dava una sensazione di avanguardia al tempo. Sì, sì, sì. No, è che era, appunto, come ho detto prima quando ne parlavo, ho detto, cioè, la grandezza dell'intuizione, no? Quando poi ovviamente in Italia magari non ci arriva la tecnica, ma ci arriva l'intuizione, che era geniale da sto punto di vista. È vero che poi dopo a volte c'era una difficoltà suprema, ma se ci prendevi un po' la mano, che ne so, sulla punizione facevi il cross, c'era quello che andava a colpi di testa, sì, sì, sì, magari segnavi, cioè, nel senso, facevi cose così come te le potevi immaginare. È chiaro che era grezzissimo e c'aveva veramente una marea di limiti, chiaramente, però insomma, grande merito, applauso. No, non ci tenevo a sapere questa cosa perché in realtà per un periodo ho pensato di essere stato l'unico che ci ha giocato a sto gioco. No, no, no. Perché no, io ne parlavo e tutti dicevano: ah sì, mo ricordo, sì, a malapena. Ovviamente lo dico per ad onor di verità, tutte le cose che ho citato erano assolutamente tutte piratate. Sì. Cioè, se andavo al negozio, ovviamente, rigorosamente. Sì, sì. Rigorosamente. L'unica cosa che avevo comprato, ovviamente non piratato, erano Dylan Dog alle edicole. Ah, e beh, mi sembra, certo, Lupo Alberto, sì, che giocai nell'Idea Software, molto carino, con pre-originale, e Moon Shadow per Commodore 64. Tutto, ma il comunque resto... tu che sei, cioè, sei più giovane, poco più giovane di me, ma comunque bene o male siamo più o meno, siamo lì, diciamo così, ricordiamolo, la gente che se tu compravi un gioco originale poteva venire la finanza e te arrestavano, cioè, sì, ma era una cosa assurda spendere 40.000 lire per un videogioco originale, c'era, era considerato una, un buttare, era un reato, un reato, sì, ma dice, esatto, per un gioco solo, ecco, sì, adesso sì, torna, esatto, alla mentalità della persona abituata alle compilation. Spendere, sì, 40.000 lire per un gioco solo, per tu che tra l'altro non era così diffusa la console canonica o in NES, Super NES, cioè non è che l'avessero tutti, Mega Drive, quindi dove tu compravi un gioco e lo giravi fra amici, oppure arrivava un Natale e ci giocavi per un anno perché costava l'ira di Dio. Per uno che aveva un Commodore Amiga con 64 che gioca tutto pirata, 40.000 lire era qualcosa di... tu sei pazzo, sono soldi buttati, ti sentivi, sì, in, sì, colpa, sì, sì, avevi, sì, una, sì, sensazione, sì, di colpa quando, oh, uscivi dal negozio e dicevi: ho comprato questa cosa scatolata per un gioco solo. Oh, a me con 40.000 lire mi venivano 8 dischetti da 5.000 lire l'uno, 8 giochi perlomeno, se vi ricordate. Sì, no? Sì, sì. Sì, ma sì, cioè, sì, voglio, no, dire, no, se andavi da quello che ti vendeva i dischetti, sì, se no proprio alle brutte erano 8.000 lire special play, sì, game, quanti ce ne hai comprati, sì, voglio dire, nel senso, no? E vai lì a voglia giochi. Va bene, dai, allora andiamo avanti, Luigi, che penso, okay, a sto punto più o meno. Allora, qua ovviamente faccio una premessa, è stata una un punto che ho scritto riguardando un po' più che l'aspetto, diciamo, studiato del fenomeno del gioco italiano, di quello che stiamo parlando, è un aspetto molto più irrazionale, legato alla sfera delle sensazioni, delle suggestioni e dei sentimenti. Penso, ho scritto: per coloro che al tempo giocavano videogioco italiano, esisteva la possibilità di sentire come in qualche modo fosse qualitativamente diverso rispetto ad altre produzioni più blasonate? Oppure a volte si percepiva qualcosa di avanguardistico che altri videogiochi non possedevano? Era possibile, in termini di grafica, rifiniture, qualità finale, percepire l'elemento italiano che contraddistingueva una produzione nostrana? Era una sensazione che lasciava freddi o esaltava? In quei prodotti che avete giocato sentivate indolenza, crisi di ispirazione e mancanza di rifinitura, e in quali invece l'eccellenza? Secondo voi è davvero una questione di problemi strutturali lo sviluppo di videogiochi in Italia, vale a dire burocrazia, mancanza di scuole e formazione, di investimenti, politiche sballate, oppure una mancanza di intraprendenza congenita che relega l'Italia dietro le quinte rispetto allo sviluppo dei grandi videogiochi? Beh, no, sono rimasto un po' perplesso. Vabbè, io partirei da è vero, come diceva Carlo, lui non, molti non li ha giocati, però poi magari qualcosa su PC, però se vuoi provare a dare una risposta, ma puoi anche, perché io in realtà poi ci tenevo che tu fossi presente, perché soprattutto in questa parte finale ti volevo umiliarmi e far capire a tutti che no, soprattutto in questa parte finale in realtà puoi fare anche dei parallelismi come abbiamo fatto prima, no? Nel senso, mm-hmm, che perché ci sono alcune professioni, in realtà questa domanda la potevamo fare anche a Sant'Agostino, la potevamo fare registrare a parte, cioè, nel senso, mm-hmm, questa domanda è il succo, perché la prima parte un po' abbiamo risposto già, e un po' no, possiamo anche aggiungere altro. La seconda parte, secondo me, forse è anche un po' il fulcro del discorso. Non so, Carlo, se vuoi dire qualcosa, senza... No, diciamo, al di là di dell'aver giocato meno a giochi italiani o no, insomma, sicuramente quello che dicevi tu prima, quello che appunto anche diceva Luigi prima sulla domanda riguardante appunto la differenza fra la sensazione di essere davanti a un prodotto più o meno blasonato, meglio riuscito o peggio riuscito rispetto a, ad altri standard, diciamo, più mainstream, o comunque semplicemente a, a standard differenti provenienti appunto da, non dall'Italia ma da altri paesi che hanno comunque un mercato più, diciamo, più ferrato, più, più in forma rispetto al nostro. Eh beh sì, quello dipende anche molto appunto dal, dal riconoscimento delle professioni che dicevamo prima, dalla preparazione che dall'indirizzo stesso proprio professionale che alcuni possono prendere, intraprendere più o meno, no? E qui in Italia ovviamente di indirizzo professionale finalizzato al videogame non credo che ce ne sia. Mo adesso non so se ultimamente è stato pensato qualcosa di simile, aiutatemi voi, magari Giuseppe questo lo sai meglio tu di tutti noi, se, se c'è un, se sono dei corsi ufficiali per programmare videogame qui in Italia, non credo. Sì, sì, no, sì, aveva, aveva anche linkato nel documento, diciamo, quelli seri che sembrano, almeno da quello che è, sono quelli di Digital Bros, mi sembra. Ah, okay. Mi sembra di, almeno io ho dato, ho detto, non li ho, non ho avuto occasione mai né di contattarli né di andare, insomma, a informarmi, tranne appunto dal, dal link del loro sito, e sembra cose abbastanza riconosciute. Poi oltretutto è anche in collaborazione anche con docenti di varie università, nonché alcuni sviluppatori nostrani attuali. Poi diciamo ce ne sarebbero entri altri che sarebbero un po' più pulciari, ma di cui non credo che vogliamo fare nomi, no? No, oltretutto secondo me ricade pure nel, nel punto che ha detto Luigi, quello del qual è, diciamo, la cosa che invece c'ha la nostra onta, ciò che da cui vogliamo prendere le distanze, che è stato secondo me il punto più basso della produzione italiana, rientrano anche loro, esatto, in questa categoria. Certo. E insegnano i videogiochi. Vabbè. Il Presidente della Repubblica, sì, che ci ascolta. Esatto. E basta, però, direi di tornare, di richiamarvi al. Detto io, personalmente, nonostante quelli di i platform di Sivu Mondo, che purtroppo detto, erano brutti, però, per esempio, ero contento quando uscivano tutte queste avventure italiane, appunto, come quelle di Dana Baito. Anche il solo, capisco che insomma pure quella può essere considerata una mezza fatecchia, però a me ai tempi piacque Dylan Dog attraverso lo specchio, non so se qualcuno di voi l'ha mai giocato, era l'unica avventura grafica su Dylan Dog, proprio come avventura grafica. Sì, sì, sì, fatta, ma da... non era fatta male. Sì, sì, per quei tempi secondo me era abbastanza interessante. Sì, sì, sì. Anche perché se vi ricordate, c'era cioè quella cosa particolare che, a differenza magari appunto dei giochi delle avventure Sierra, in cui c'era la possibilità di rimanere bloccati o di morire all'istante, là, se vi ricordate, c'era con quel trucco l'espediente che rompeva la quarta parete, no, del disegnatore, lo sceneggiatore che stava preparando la storia di Dylan Dog, no? Lui tipo diceva, si vedeva a un certo punto se rimanevi bloccato, se non avevi fatto determinati eventi, ti riportava proprio indietro, come se lui tipo stesse scrivendo adesso la sceneggiatura, e diceva no, tipo questa parte non mi piace, fare brainstorming e la scarta. Non so se vi ricordate queste vignette e sta meccanica che veniva implementata nel gioco. Poi diciamo, per il resto comunque, in ogni caso, quando un gioco effettivamente alla fine italiano mi piaceva e magari appunto non lo sapevo, ma lo scoprivo attraverso i crediti del gioco, comunque mi riempiva lo stesso d'orgoglio, perché sapeva che c'era qualcuno. E un po' in realtà ai tempi, quando mi avvicinai alla programmazione, comunque un po' mi spronava, no? Perché diceva, magari un giorno potrò anche essere come loro, anche se poi loro insomma a distanza di tempo non hanno fatto proprio una bella fine la maggior parte dei Ma lo sai, mi ha fatto venire in mente una cosa, sì. Che la prima vabbè, quando un gioco era italiano, beh, sì, è difficile non saperlo perché lo scrivevano dappertutto e via dicendo. Però la prima volta che ho giocato un gioco italiano e non sapevo che era italiano, e guardavo i crediti, ho detto guarda, sti stronzi hanno craccato pure i crediti. ma quale gioco era? Dillo. Non mi ricordo, okay. Non mi ricordo. La fiducia proprio nell'Italia, vai. No, mi ricordo proprio che mi ricordo sta cosa che vedevo, che ne so, cioè, programmatore Mario Rossi, sì. Guarda sto barondo che si è craccato anche. Ma che Carlo ha finito perché mi ero un attimo perso, perché stavo leggendo una cosa nel mentre. Sì. Scusa, Carlo. No, beh, la considerazione è semplicemente questa. E comunque, vabbè, da noi, non essendoci comunque un mercato che può in qualche modo portare soldi al paese, che può foraggiare in qualche modo l'economia, non è una cosa che noi guardiamo con particolare interesse dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista delle infrastrutture. Per cui, cioè, se pensi che noi in Italia comunque abbiamo tante altre lacune su quella che è la scuola pubblica, cioè su quelle che dovrebbero essere le istituzioni, quella proprio l'ABC, no, appunto, a parte Carlo, appunto, che anche appunto lo vediamo anche col fallimento degli stessi, no, corsi di anche a volte pure accademici, quelli che esistono da sempre all'università, no, che non sempre comunque ti preparano una volta che sei laureato proprio ad affrontare il mondo del lavoro, no? Sì. Sì, sì, infatti. Ma infatti poi questo te volevo chiedere, anche se non c'entra niente, Carlo, cioè in realtà, ecco, queste nuove professioni, come ci si arriva? Perché ecco, per esempio, il fatto del, magari il tecnico del suono, come dicevi te, in realtà è già diverso. Già il sound designer è un po' più... Sì, sì, beh, adesso è già diverso. Per esempio la scuola che ho fatto io, che è il CineTV di Roma, comunque da diversi anni a questa parte ormai non prepara più le figure che preparava quando sono uscito io da scuola. E adesso comunque prepara delle figure più, passatemi il termine, multimediali, nel senso, se prima c'erano degli indirizzi molto specifici, tra cui fonia, che ne so, video, che si divideva in montaggio e presa diretta, quindi cameraman, montatori, c'era addirittura la sezione dei fotografi, adesso invece prepara al mondo del lavoro degli ibridi multiskillati che dovrebbero saper fare tutto. E poi mi dispiace per loro, alla fine non sanno far niente, no, non è che non sanno far niente, per carità, però anche perché ora la tecnologia ti aiuta moltissimo rispetto anche a quando sono uscito io. Ah, sì, certo. Era tutto quasi analogico. Analogico nel vero senso della parola. Io ho lavorato con i magneto-ottici, noi facevamo il montaggio proprio tagliando i nastrini, capito? Cioè, queste cose che adesso non fa manco ridere, è una cosa, cioè, adesso la gente ti guarda con gli occhi di fuori e dici: ma quanti anni c'hai? E invece no, insomma, c'ho solo, fra virgolette, 35 anni. Eppure un 35enne che comunque ha intrapreso anche quella tipologia di lavoro, che era proprio artigianato proprio al tempo. Adesso non esiste più, ovviamente, per grazia di Dio, anche aggiungerei. Tutta questa invasione di nuovi mestieri, che comunque ovviamente preparano i giovani adesso a un mondo del lavoro più internazionale, quelli, per fortuna, insomma, noi ci stiamo svegliando da quel punto di vista. Abbiamo capito che insomma sono delle cose che servono, dobbiamo usare degli strumenti che lo vogliamo oppure no, che insomma ci servono per intraprendere un certo tipo di percorso professionale. Insomma, se pensate, insomma, tutti voi sicuramente come me siete capitati un po' nel collo di bottiglia del computer, quando, che ne so, bramavate avere un computer in casa, dovevate in qualche modo convincere i vostri genitori che sarebbe stato comunque un acquisto sensato, no? Atto a un discorso di studio, okay, insomma, no? Che non era solamente una cosa per giocare, come poi alla fine magari invece era, insomma. Quando invece sì, ma questa è fa parte della storia dell'home computer in Italia. Io in realtà, rispondendo alla prima parte di quello che dice Luigi, e poi gli lascio la parola a lui, perché mi pare che abbiamo parlato tutti, no? Mi pare, giusto? Sì. Sì. Il feeling che una cosa era italiana a volte c'era, e a volte era una cosa positiva, a volte era una cosa negativa, ma questo l'abbiamo detto anche sopra. C'era, ecco, come Nippon Safe Inc, per esempio, che mi chiedevo, mi facevo la domanda, per esempio, chissà se anche all'estero lo stanno giocando questo gioco, e comunque il fatto che comunque era un modo anche di riscattarsi, no, in qualche maniera. Dall'altra c'era anche poi quell'atteggiamento generale che sentivo in tantissimi miei amici, o quando andavi al negozio, che ne so, andavi da Per Gioco a comprare i giochi, o andavi in tutti quei posti di ritrovo dove i videogiocatori si scambiavano i dischetti, le cose, roba del genere. Cioè, vabbè, questi italiani, cioè c'è sempre stata sta cosa anche culturale nostra, che se era fatto a noi faceva schifo tipo per forza, no? Quindi, ma questo in generale era nel calcio, noi ci capiamo di più e gli allenatori sono delle bippe, e via dicendo. Detto questo, ecco, mi domandavo magari i giochi quelli più di successo, se in realtà poi all'estero sfondavano, venivano venduti, perché in realtà noi non ce l'avevamo, la percezione è così, confermando anche quello che mi disse Dino Dini quando l'abbiamo intervistato con Peppe anche lì al Vegamus, che c'ero che, anch'io quel giorno, mi ricordo. Però non ci abbiamo questo, non ci conosciamo ancora, cioè. Simone, tu lo sai che, che ci sarà il beep che coprirà quella parola, mi raccomando. Comunque, ecco, lui diceva, cioè nel senso, io quando programmavo in Inghilterra, il gioco usciva in Inghilterra e guadagnavi o vedevi, avevi le percezioni di quello che succedeva in Inghilterra, cioè non lo sapevi quello che succedeva nel resto del mondo, no? Cioè nel senso, magari ti arrivava la mail o ti arrivava la lettera per dirti, ah, hai scritto calcio d'angalo, e io non ci pensavo al fatto che c'era qualcuno in Italia che stava giocando al mio gioco. Cioè c'è stato un tempo in cui noi questa percezione globale non ce l'avevamo proprio, chiaramente, no? Quindi e anche in questo poi in realtà questi 30 anni hanno veramente trasformato il mondo in generale, e figuriamoci il mondo dei videogiochi, no? Però ecco, me lo domandavo, no? C'era il gioco che dicevo, cazzo, questo è un gioco che può essere paragonabile a tantissime avventure grafiche che escono, perché insomma, da avventure grafiche anche a livello internazionale, anche francesi, inglesi e roba genere, uscivano tante, e secondo me, ecco, quelle che abbiamo citato prima, secondo me erano all'altezza, per esempio, ci potevano anche stare, no? Non so se è sul discorso della seconda parte, boh, io sono abbastanza d'accordo con Carlo, non penso da niente da... No, pensa, scusami, solo per fare un addendum, quello che avevo detto prima, ti ricordi, quello più di successo delle cose, diciamo, delle produzioni italiane seriali, poi anche appunto per quegli accordi di distribuzione che avevo detto prima, fu proprio Time Runners, perché Time Runners fu portato e tradotto anche in altre 5 lingue oltre all'italiano, è distribuito in tanti paesi, cioè in francese, in inglese, in portoghese e in tedesco. Pensa, quindi tutta l'Europa ha giocato a questa fetecchia e ha venduto. Cioè ti rendi conto? Questo era, vedi, un motivo. Poi, perché oggi per esempio i giochi che escono italiani, ecco, io vedo tante volte alcuni sono già programmati per, mentre che i giochi della Simul Mondo erano sviluppati per l'Italia, sì. E poi dice, se piacciono magari li buttiamo anche all'estero, come i fumetti di Landog andavano molto anche in Francia, no? Quindi e via dicendo, e in realtà erano sviluppati per l'Italia e poi dopo magari venivano adattati o localizzati. Invece oggi i giochi sono già sviluppati per l'estero, addirittura ci sono alcuni giochi italiani che neanche vengono tradotti in italiano, che è una cosa che faccio un po' fatica a comprendere, no? Come concetto, perché sembra poi un autosnobismo, no? A quel punto, cioè nel senso quasi un autogol, no? È come proprio nel momento in cui c'hai modo di poter avere un, come devo dire, un riscatto, una rivalsa, ma poi vabbè, il mondo dei videogiochi è un mondo strano. Luigi. Sì. Andiamo al prossimo punto? Sì, se vuoi dire tu comunque sul punto nello specifico e poi andare avanti. Insomma. Mi sembra insomma che è stato affrontato egregiamente. E, sì, allora il prossimo punto ovviamente non potevo esimermi dal fare un excursus all'interno della storia della Simul Mondo. Vi ho linkato una intervista che è stata fatta da UBC Fumetti a Francesco Carlà, che è praticamente il fondatore della Simul Mondo e anche della sua, diciamo, visione del mondo virtuale, Simul Mondo da mondo simulato. E ovviamente io nel punto ho scritto praticamente che la storia di Francesco Carlà, praticamente la bella storia da Simul Mondo, parte dalle pubblicazioni derivate dai fumetti, cioè scusate, non parte, è conosciuta per le pubblicazioni soprattutto derivate dai fumetti, distribuite esclusivamente in edicola, oltre a due episodi ovviamente di Dylan Dog e Tex, sono stati anche venduti, rilasciati a parte come giochi a sé stanti. Sì, sì, diciamo che i due episodi pilota erano praticamente i giochi retail dai quali praticamente loro poi hanno continuato a prototipizzare e a generare tutti quelli da edicola. Che tanto, se non sbaglio, tuo padre è un collezionista di Tex, tutti Tex, giusto? Sì, sì, sì. Era tuo padre che di cui mi parlava. Sì. Ok, quindi immagino come avete seguito l'excursus. Sì, sì, infatti in realtà questi qua io diciamo, li potevo anche giocare ed erano uno di quelli che facevo meno fatica a chiedergli di comprarmi proprio perché con la scusa, anche perché se vi ricordate questi da Ericola della Simulmondo comunque venivano allegati a comunque un libricino o qualcosa, un volumetto pure cartaceo, non era solo il semplice floppy. Nel package, no? Quindi comunque c'era pure una parte proprio da fumetto, se vi ricordate, con quattro immagini, sì. non era diciamo chissà che albetto, però comunque era in collaborazione tra l'altro con Bonelli, sì, esatto. Ufficiali, pubblicazioni che venivano riconosciute nel mercato anche diciamo dei collezionisti come originali e come proprietarie, quindi è chiaro che avevano un loro valore anche prese di per sé. Praticamente io ho scritto qui nel punto che l'idea di fumetto interattivo era un'ossessione giustificata anche dalle ottime vendite di Landhog nelle edicole italiane, nonché della storica appeal appunto dell'ultradecennale Tex. L'operazione commerciale ebbe un successo inaspettato con una serie dedicata di Landhog che fece registrare ottimi riscontri di interesse anche in Francia e Spagna. Quale sarebbe, e questa è la domanda, l'equivalente di un'idea sostenibile nell'Italia videoludica di oggi? Un fumetto su Gipi, Zero Calcare o del recente Orfani? Cosa ne pensate dell'operazione fumetti videogiochi della Simulmondo di un tempo? E ho inserito due link, uno alla pagina Wikipedia di Simulmondo per chi non sapesse insomma o volesse rinfrescarsi la memoria sulla software house, e a Francesco Carla, il fondatore della Simulmondo, ho linkato anche un'intervista. Volevo specificare che ho voluto mettere riferimento all'equivalente alla domanda quale potrebbe essere l'equivalente di un'idea sostenibile nell'Italia di oggi, nell'Italia videoludica di oggi, perché sono un po' andate scemando. Poi se voi avete degli esempi contrari mi piacerebbe anche esserne dotto, e le proprietà intellettuali italiane portate fuori all'estero. Una volta Dylan Dog era conosciuto oltre per il film che poi c'è stato della morte dell'amore con Rupert Everett, aiutatemi, Rupert Everett, l'italiana come si chiama quella lì, la bella signorina al tempo, non era Monica Bellucci o no? No, era un'altra. Vabbè, comunque, in qualche modo erano vendute queste realtà anche all'estero, Francia e Spagna. Sì. Mi ricordo che, come dice Carla, ebbero un buon seguito in quelle parti. Adesso pensare di poter portare qualcosa come uno Zero Calcare, faccio un esempio, su tutti, Orfani, fuori, andrebbe a scontrarsi con quello che è la grande produzione che va invece a toccare tutti gli aspetti del mercato internazionale. Se non potrà mai competere un Orfani con un Halo, per intenderci, o uno Zero Calcare con i Griffin o South Park. Sto parlando proprio di percezione che si ha di un brand che viene portato poi a livello multimediale un po' ovunque. Ecco, voi secondo voi incide questo aspetto qui, che siamo schiacciati da chi ha possibilità di investire di più e quindi le idee, anche se sono buone, poi trovano poco accoglimento? Oppure pensate che mancano proprio delle idee per cui gli investitori non si sentono di poter diciamo dare i loro soldi a dovere in modo da farle emergere e promuoverle? Iniziamo da Gianluca. Sì, io penso ci siano molte difficoltà oggi e credo che non sia possibile che accada, per esempio in questo momento, qualcosa come è accaduto tempo fa con la Simulmondo, cioè che un publisher di dimensioni italiane possa permettersi di investire su dei marchi nostrani e sperare di avere successo. L'unico esempio positivo da questo punto di vista, che poi guarda caso parte proprio dai fumetti, e Super Magic Cane Zero, che dovrà uscire tra non molto, insomma, che appunto parte dal lavoro di un fumettista bolognese, forse, comunque. Sì. E grazie allo studio Evil, che è un ottimo studio di sviluppo italiano, possono creare un videogioco interessante, ma comunque è Mi dispiace dirlo, ma non è grossa roba. Io un esempio l'avrei, però nel mio caso, scusami se mi intrometto, fatto che secondo me le capacità ci sono, ma nell'esempio che porto io manca il marchio, perché il marchio non è italiano. Cioè, per darvi un'idea di un'altra cosa che abbiamo pure trattato in altri podcast di PN, Lupo Solitario, Lone Wolf, no? Che è di Forge Play, comunque il lavoro dietro è buono, anzi è di una qualità comunque elevata, perché comunque il gioco ha ottenuto un successo sia di vendite ed è comunque effettivamente ben realizzato. Oltretutto mi pare che di recente l'hanno pure portato su PC, però il marchio da cui trae non è italiano. Quindi comunque è un valore aggiunto. Sì, ma nel senso che però secondo me adesso, in questo periodo, almeno lo usavo come esempio per avvalorare la mia tesi, mancano i brand forti, ma le capacità ci stanno. La gente capace ci sta. No? Ti do la parola a Gianluca, però prima dico, dato che Gianluca parlava di Super Cane Magic Zero. Super Magic Zero, che praticamente Simone Sio Albrigi sarà poi ospite della prossima puntata dell'Occhio del Beholder da Giuseppe, quindi diciamolo perfetto. Prima che tu lo insulti. Sì. No, figurati, stavo parlando bene. No, stavo scherzando. Simone poi è il bello di questa occasione che abbiamo avuto, sia di parlare che parleremo di questo gioco, è il fatto che comunque poi lui tra l'altro nasce come podcaster, no? Cioè, era un disegnatore, ha fatto podcaster, poi ha provato il canale YouTube, quindi insomma il suo percorso è stato è partito, insomma era uno di noi prima, quindi c'è stato un tempo in cui diciamo c'è stata quasi un'interazione, quindi era stato il fatto che lui sia poi diventato oggi un personaggio, a me fa semplicemente piacere, voglio dire, umanamente come persona. Poi dopo il gioco non lo conosco, ma ne parleremo appunto nell'occhio, però insomma sono esperimenti. Il fatto anche che magari sia una cosa di nicchia o dedicata anche soltanto al mercato italiano significa che comunque già c'è un'attenzione diversa, no? Secondo me. Ma certo, assolutamente. Poi tra l'altro si è affidato a uno studio bravissimo, davvero. Sì. Cioè, lo studio Evil l'ha fatto Cider Arcade, che è stato forse uno dei migliori shooter dell'ultimo periodo. Degli ultimi tempi, sì, assolutamente. Comunque chiudo un attimo quello che stavo dicendo prima, e secondo me dobbiamo renderci conto che questo è un momento difficile per l'Italia, dobbiamo accettare questa cosa, quindi anche il richiamo di quelli che potrebbero essere i nostri prodotti all'estero è basso, insomma. Noi, i campi in cui siamo storicamente, culturalmente anche forti sono, per dire, il calcio, le corse, queste cose qui, quelle che coltivava la Simulmondo anche insieme ad altri a inizio anni 90, ma chiaramente oggi sono, per ragioni di budget, fuori dalle possibilità di uno studio italiano. In realtà sono sopravvissute solo le corse, visto che Milestone continua a realizzare. Sì, Milestone. Sì, anche perché oggi una qualsiasi software house, qualsiasi essa sia, cimentarsi in un gioco di calcio sarebbe veramente un suicidio, assolutamente. Visto il duopolio, che poi non è solo una questione di duopolio perché uno è FIFA e l'altro è PES, ma perché hanno comunque 20 anni d'esperienza, di esperienza dietro, di sviluppo costante, quindi sarebbe una follia proprio. Cioè, io non lo farei mai, insomma. Esatto. Bene, Carlo. Io sono d'accordo con Gianluca, nel senso è tutta una questione di investimenti, poi alla fine, insomma, per quanto noi abbiamo una visione un po' più romantica del media videoludico, se vogliamo, insomma, essendone comunque utilizzatori da tanti anni, però pensare comunque di poter fronteggiare un investimento importante, insomma. Gli investimenti di videogame sono quasi tutti importanti, insomma, e spesso anche il successo dipende anche da quello, poi fondamentalmente, perché questo poi tra l'altro lo sto imparando proprio di volta in volta anch'io con passione sound design, per cui che mi fa comunque scoprire tante cose su quelle che sono anche stati appunto gli investimenti per i vari giochi, e non a caso a volte, insomma, anche un investimento che magari al tempo si pensava un occhio della testa, invece non era comunque non è comunque sufficiente a decretarne poi il successo, e molto, molto spesso poi ci si va anche in perdita, insomma. Per esempio mi viene da pensare all'episodio di Heavenly Sword, no? Appunto, che lo stesso capo, insomma, di Ninja Theory ha detto: io come società un gioco in esclusiva per una sola macchina, ma mai più nella vita, perché non... Sì, anche se più. Lì, insomma, voglio dire... Beh, però guarda, il team che ha lavorato quel gioco adesso, vabbè, insomma, stiamo un po' saltando di palo in frasca, sì, me ne scuso, nel senso, no vabbè, però era veramente una cosa, cioè, tecnicamente e artisticamente è un grandissimo gioco, ma sì. Il gioco tecnicamente, cioè, no indubbiamente su quello non era fallimentare a prescindere, anche se non era un'esclusiva, cioè, su quello non ci piove, però comunque sia Ninja Theory non è comunque EA Games, e comunque ha annoverato tantissime persone per la lavorazione di quel gioco, hanno speso tanti soldi, secondo me il vero problema è che secondo me lì non hanno saputo dimensionare la indubbiamente cosa, indubbiamente e probabilmente, appunto, facendo un gancio anche noi in Italia, proprio per la nostra mancanza, fra virgolette, di questo mercato, non avremmo neanche le capacità proprio organizzative per creare una cosa. Appunto, io parlo sempre faccio sempre comunque un discorso di giochi di una certa importanza dal punto di vista di investimento, quindi giochi AAA o cose del genere, poi al di là di quello che dicevamo prima di quelle che sono le professioni, o che quello, insomma, noi storicamente da italiani non ci ha mai veramente impensierito poi il non saper fare una cosa, insomma, noi siamo un po' l'arte di arrangiarci, no? Se, insomma, gli italiani, diciamo, sicuramente abbiamo una capacità che è quella di inventarci sempre. E io penso che comunque, ritorno, insomma, al discorso che facevo a monte, che probabilmente grazie al mercato indipendente noi potremmo avere un'espansione importante, sì. Se solo ovviamente i nostri talenti decidano di rimanere qui in patria, o se no di andarsene via tutti, come invece spesso accade. Anche quello secondo me è una cosa molto... come di importante, insomma, per... Sì, anche perché questo è veramente un paese strano, cioè, nel senso che anche ammesso in un concesso, vabbè, a parte la dimensione, appunto, dell'industries grossa, cioè dell'industria grossa americana, AAA, oramai ha, come abbiamo detto più volte, surclassato in pochissimi anni quella del cinema a livello di movimento finanziario. Noi probabilmente a quei livelli non ci arriveremo mai, ma non ci arriveremo mai perché, tra tutti i problemi, per esempio, che abbiamo elencato inizio puntata, facendo riflessione con Luigi, e poi qui io poi gli rilancio anche la palla, o a Peppe, non so se Peppe deve dire qualche cosa, io ci avevo, non per fare questioni personali, però dico, io avevo un'ex ragazza che aveva la mamma che faceva l'insegnante di informatica, e lei era laureata in lettere, e me lo diceva sempre: io di informatica non so niente. Però faceva l'insegnante, era di ruolo, c'era la cattedra, capisci? Quindi è il paese delle assurdità, no? Dove evidentemente materie vengono comunque considerate meno importanti, o perché non c'è ancora l'attenzione, o perché in realtà noi arriviamo sempre dopo su certe determinate cose, e quindi magari abbiamo cresciuto anche generazioni di ragazzi che, a parte il caso di Peppe, che poi alla fine, tra virgolette, è un figlio d'arte sostanzialmente, nel senso che è uno che viene da un padre che era uno sviluppatore, e di conseguenza anche lui poi magari ha intrapreso quel tipo di strada. Però la maggior parte di noi, quanti di noi avrebbero potuto continuare, no? Anche solo così, come imparare una seconda lingua, diciamo così, la possibilità di continuare a lavorare il codice, così come facevamo col Basic quando c'avevamo il Commodore 64, roba del genere. Invece in realtà poi, ecco, e ritorniamo, cioè 21 milioni di giocatori censiti, in realtà qui si gioca tanto ma si produce poco, proprio per ragioni storiche, secondo me c'è niente da fare, è proprio un problema. Poi, Simone, tanto stavo pensando, mi hai ricordato, io ho fatto 5 anni di quella che una volta si chiamava ragioneria, sì. Ci ascolta, sì, non esiste più, così va giorno anch'io. Si chiama liceo qualcosa, liceo commerciale, non lo so, cioè, adesso, certo. Si chiamerà. Però per dirti perché c'era la classe sperimentale di informatica. Tu ne andavi lì a iscriverti, io l'ho fatto per 5 anni la ragioneria, e la classe informatica poi ci sono andato forse 10 volte massimo, 15 volte in 5 anni, dove un insegnante di matematica, che non sapeva nulla di informatica, ti spiegava dei rudimenti del linguaggio Pascal. Immaginate, cioè metà anni 90, sì, giusto per dare un po' di lustro e dire: qui si fa informatica, quindi iscrivetevi a questa scuola e pagate qui le tasse. Certo. Cioè, pensateci un attimo, io ho 5 anni della mia vita. Adesso l'ha raccontato anche Biggio, mi pare la penultima puntata di Ideologia Videoludica, nella sua piccola rubrica. L'ha detto, lui si è iscritto a una scuola perché gli hanno detto che lì c'era un buon corso di programmazione o di informatica, e quindi lui era, dice, così impari a fare i videogiochi, no? Perché poi magari vedi poi l'ambizione di chi giocava, magari comunque un po' alcuni di noi ce l'hanno avuta, no? Poi in realtà ci sono proprio mancati gli strumenti, cioè. Ma il discorso è questo, il discorso è come viene trattato, è il videogioco, è il discorso dell'informatica, è ciò che riguarda la cultura, se vogliamo, anche della programmazione, cioè dello sbocco più lavorativo, perché non è che io ho fatto informatica e poi mi fai andare a fare uno stage da qualche parte in cui ho richiesto un informatico, ma anche uno che fa dei controlli sui mainframe, che ne so, qualsiasi cosa, certo. Zero, cioè, quindi vengono prese molte volte come pretesti, perché sono modelli che tirano magari altrove, e poi qui magari in Italia invece hanno soltanto il nome ma nessuna sostanza. Ma si basta pensare, questa è una critica che volevo fare, a come tutto il discorso dei fondi europei viene gestito nelle varie regioni qui in Italia, in modo assolutamente pretestuoso. Molte volte servono per rifinanziare attività, diciamo, delle società di management messe su solo perché così possono approvvigionarsi e avere questi fondi, e molte volte per farti iscrivere, come è capitato a mia cognata, ti promettono tipo: guarda, se tu mi fai queste tot ore frequenti ti regalo un tablet, per dire. E loro quei fondi ci comprano questo tablet in modo che tu possa iscriverti, e loro possono ricevere questi finanziamenti per farti diventare magari operatore di telemarketing, cioè come si vende in un call center, cioè siamo su questi livelli. E quindi è chiaro che fondamentalmente come viene vista la cultura qui è per la maggior parte legalizzato l'aspetto del magna magna, e tu non puoi fare impresa o pensare che qualcuno possa investire su di te quando le credenziali di finanziamento partono dai presupposti così malati alla base. E questo è una realtà, non voglio essere pessimista, perché in realtà ci sono anche startup o delle realtà molto molto più focalizzate e coscienti, però se tu fai un giro mediamente trovi della mediocrità da questo punto di vista, ed una che si sa paga pochi e distrugge molti. Anche un difetto sistematico un po' di tutta l'industria italiana. Un difetto sistemico. Oserei dire che serve in realtà solo per finanziare gli stessi che fanno i corsi, cioè pagare solo i professori e basta. Non a caso io conosco una persona che si è iscritta a un corso di sviluppo di videogiochi, di game design. Di giochi, per me è una cosa, per me, cioè io se dovessi spendere i soldi, ragazzi, cioè io, perché questo, io poi su questa cosa non riesco a ragionare, cioè nel senso che se io dovessi entrare in un dovessi pagare per andare un master professionale, ragazzi, cioè ci penserei due volte prima di spendere dei soldi senza informarmi su chi è, chi non è, che mi fa questo e soprattutto a che titolo, capito? Cioè nel senso, perché no, ma soprattutto, che è la domanda che chiunque, anche teoricamente la persona più sprovveduta, dovrebbe balenargli subito in testa: ma tu quali giochi hai fatto? Capito? Cioè, nel senso, se io non avessi conosciuto Carlo Burigana, ti faccio l'esempio, e Carlo Burigana un giorno mi manda la mail e dice: ragazzi, io faccio il corso di sound design a 2000 euro, faccio il corso 25 ore. E dico: vabbè, sì, 2000 euro in realtà non so manco tante. Però se volete, io. Chi cazzo sei, no? Nel senso, cioè, che hai fatto? Invece, poi, vabbè, poi magari lo conosci e ti dici: guarda, vai sul mio blog e vedi vedi, io ho fatto, che ne so, questo trailer, ho fatto il sound design di questo documentario, ho fatto l'ottimizzazione di quest'altro lavoro qua, e te ne vai a essere e ti dici, beh, però sì, forse 2000 euro li vale, ma lì veramente di che stiamo a parlare? Cioè, no, perché vabbè, stiamo a parlare di sottintesi e lasciamo perdere forse. Però ecco, questo è un discorso che in Italia appunto è un problema proprio sistemico, cioè nel senso, diceva pure Gianluca, è un problema proprio culturale, anche generazionale, che purtroppo non si portiamo via, non c'è una capacità di professionalizzare, di far a meno che poi ovviamente sono delle realtà di cui poi penso Luigi voleva parlare anche dopo. Ok, mentre che facevo comunque questa mia disquisizione sui corsi, sui master e a chi dare i soldi, nel frattempo noi, per non sapere né ce ne scrive, visto e considerato che Skype è potente questa sera in noi, abbiamo fatto entrare un'altra persona che era prevista questa sera, però non sapeva se ce l'avrebbe fatta, ed è il nostro amico fantastico, eroe della retro rassegna stampa di archeologia videoludica, Morgan. Pace a tutti, un saluto a tutti. Pace, sempre pace, mi raccomando, che è la cosa più importante. Noi abbiamo, diciamo, già svolto più o meno tre quarti dell'episodio, insomma, che Luigi ovviamente aveva concepito, però Luigi ci teneva in particolare, insomma, a puntare il dito o l'attenzione su una cosa fondamentale, giusto Luigi? Volevi riprendi il controllo di te stesso, insomma, di me stesso. Allora, niente, Morgan, ovviamente abbiamo parlato di te prima per quanto riguarda le tue suggestioni, i tuoi suggerimenti sulla chat, sul forum su Facebook di Archeologia Videoludica, nel quale, per quanto riguarda i giochi in Italia, facevi riferimento alla Fuolivetti, le proprie macchine home, le produzioni in basic, linguaggio macchina Mondadori, che accompagnavano le enciclopedie vendute col Commodore 64, l'immenso sottobosco, come lo hai nominato, di software pubblicato come listati sulle riviste, le routine grafiche di Danilo Toma e tutti i nostri anni pubblicati sui primi 10 numeri di Load and Run, prima che diventasse pirata, e il lavoro titanico della rivista su cassetta Presidex Spectrum Run. Ovviamente io sono cose che non ho messo, sia perché non ci avevo minimamente pensato, e tu ovviamente hai questo sguardo filologico molto profondo, e soprattutto sono delle realtà molto valevoli da tutti i punti di vista, sia come lavoro di codice, sia per tutti gli applicativi che ci stanno. Quindi, oltre al videogioco, parliamo anche di italiani che erano in gamba nella programmazione, nel creare, diciamo, dei software a tutto tondo, 360 gradi, che trovavano questo sbocco nostrano attraverso le edicole, attraverso riviste che poi diventavano orientate al gaming o meno, più pirate o meno, eccetera, che però avevano una qualità molto alta, tutta nostrana, ripetiamo. Se volevi farne un cenno, ecco, se volevi parlarne, magari il tuo contributo è più che ben accento. Sì, no, perché la mia visione è sempre quella in retrospettiva, fondamentalmente anche per motivi di età, diciamo, pure per averlo vissuto di persona, così come anche penso Simone, e quindi c'è molta parte della creatività italiana che purtroppo è oggi come oggi è andata persa, se si considera che noi avevamo una tra le più grandi industrie di informatica, sarebbero Olivetti, nel nostro paese, che oltre a creare macchine creava pure tutto il software di supporto delle macchine. Quindi non parlo solamente di manualistica, ma tutto il software che accompagnava la macchina all'acquisto e poi nel post vendita. E una buona parte di questo software riguardava proprio il settore videoludico. Non erano dei capolavori, però erano scritti in Italia appositamente per le macchine create in Italia. E oggi come oggi, che compriamo macchine oppure sistemi operativi, oppure cellulari o cos'altro creato in America, in Corea, ci può sembrare una situazione paradossale, ma è cosa che avveniva meno di 20-25 anni fa. E poi c'erano realtà editoriali come ad esempio la Mondadori, che produceva enciclopedie che accompagnava per stimolare la vendita ai Commodore 64 oppure ai CPC dell'Amstrad, e li accompagnava con del software creato dalla Mondadori, e per lo più si trattava di programmi in BASIC con qualche piccola routine in linguaggio macchina. Si trattava di utilità, ma anche di giochi, di prodotti di didattica, però creati con un'ottica al gioco. E, sì. E poi non, io penso che sarebbe interessante riscoprire quella che è tutta la produzione amatoriale e generata da una grande massa di sconosciuti, che erano quelli che mandavano i listati per le riviste tipo List, tipo Paper Soft, che al loro interno in ogni numero immancabilmente avevano, sì, il gioco creato con la routine in linguaggio macchina, per lo più in BASIC generalmente. Però, sì, però sì, queste produzioni di una paginetta di listato, di due paginette, c'era comunque una certa creatività e c'erano comunque delle idee originali, tutte partorite comunque nel nostro paese. Beh, c'è stato un grande sottobosco. Ricordiamo che l'Italia, l'abbiamo detto anche in Archeologia Videoludica, è stato il paese che per la prima volta ha sperimentato la rivista su on screen, diciamo così, quindi praticamente la versione digitale della rivista in sé, no? Quindi in realtà, come dice Mario, Morgan ce ne stanno veramente tanti di esempi, a partire appunto come ha fatto lui dall'Olivetti, che però io ricordo che l'Olivetti era l'industria socialista e non andava bene l'americano, capito? Quindi, mi piace sempre buttarla un po' così sulla, così faccio arrabbiare sul politico. Sì. Infatti, magari teniamola fuori da disfuggire. No, vabbè, no, era chiaramente una battuta, perché però comunque, come ha detto Sant'Agostino, l'archeologia informatica, il modello comunque era quello, no, a livello industriale. Certo. Questo è importante comunque storicamente, perché non è una cosa da sottovalutare, che comunque l'industria veniva costruita in una determinata maniera, no? Quella visione degli Olivetti che andava verso un certo tipo di rapporto anche con gli operai, è una cosa che anche in generale in Italia e in Europa non piaceva, questo è chiaro, insomma, non si sa, è così. Sì. Diciamo che non è stato però questa visione politica sicuramente ad azzoppare l'espressione della creatività italiana, ecco. No. Sì, mi piaceva l'intervento di Mario, perché è fondamentale questo aspetto qui, cioè la produzione nostrana di software. Io tra l'altro ho ancora alcune riviste della Paper Soft, List, eccetera. List grande. Sì, che aveva il grande pregio praticamente di farti entrare a contatto col codice, e quindi la creatività veniva in qualche modo non protetta gelosamente come oggi invece viene effettuata anche per le piccole cose, il copyright, le protezioni su protezioni. Là invece veniva dato proprio il codice sorgente, tanto da poterlo, era qualcosa molto homebrew, se può essere considerato veramente qualcosa da aficionados dell'informatica. Però se tu ci pensi, no, quante volte hai cambiato il numero d'un POC, no, per vedere che succedeva, oppure nella ghiera dello sprite hai provato a mettere magari dei numeri a casaccio, sì, cioè, quindi c'è, bene o male, la cosa fantastica era proprio quella. Poi Mario lo sa, perché lo sa che io lo cito sempre, poi c'era un conoscere il computer direttamente al computer, che era questa serie di cassette per C64 e VIC-20 che ti faceva lezioni di programmazione in BASIC direttamente tramite il computer, e poi c'erano degli esempi, anche lì c'erano dei giochi spesso e volentieri, quindi c'era comunque materiale sviluppato in BASIC per farti vedere quello che potenzialmente poteva fare queste macchine. Comunque sì, quello era simile a Video Basic della Jackson, no, se non sbaglio. Beh, quello io non lo conosco, io avevo questa edizione della Beatrice d'Este che usciva ogni mese in edicola, e ogni volta per me era agonizzante. Perché dovevi aspettare che usciva. Ce li ho, Mario, ho quelli del Commodore 64 e quelli del Commodore VIC-20, tutte le pubblicazioni della Jackson, della BASIC. E invece avevo quello dello Spectrum. Sì, ma comunque a livello di programmazione erano più o meno la stessa cosa, perché poi comunque erano dei corsi molto elementari, non è che sfruttavano la macchina al 100%, davano istruzioni BASIC generico. Però sì, alla fine quanti della nuova generazione possono dire io ho creato qualcosa con la macchina che ho, pochissimi, con il computer, col cellulare, No, adesso il concetto di creazione si è spostato sul concetto di editor. Cioè, nel senso, sì, io con software predefinito, preimpostato. Oggi sono i tool, ci sono i tool, esatto, di sviluppo. Ho creato, basta, ma anche Little Big Planet, per citare un titolo, praticamente Media Molecule. Sì, ho creato questo velo. Guarda che si va fieri magari di un level design creato dagli strumenti che ti hanno fornito, ma non perché operi sul codice. È proprio una concezione differente, molto, molto differente del rapporto con la macchina. Il concetto di editor è interessante in Italia, ed è un progetto che stanno ancora mandando avanti per quanto riguarda le avventure testuali. Facendo un piccolo recap velocissimo, l'Italia ha una tradizione, così come anche la Spagna ad esempio, ha una tradizione di avventure testuali create in lingua, in italiano, sì, ancora oggi, sì, che risale ai tempi, sappiamo, di Next Strategy, tutte queste riviste su cassetta che uscivano. Tra l'altro molte di loro hanno dei piccoli capolavori creati da come si chiama il direttore di TGM, Bonaventura Di Bello, sì, e molte di loro venivano create appunto con degli editor tipo Quill o altri editor di avventure testuali nati per l'inglese, però create diciamo col testo italiano. Se invece vogliamo focalizzarci su di una produzione di adventure fatta con strumentazione un po' più professionale rispetto a quello che può essere The Quill, come quelle scritte con il linguaggio utilizzato dalla casa, dalla Infcom, scritte praticamente con la Z Machine, in Italia è stata creata la versione italiana dell'interprete delle avventure da scrivere con la Z Machine, però adattata al linguaggio italiano. Quindi comunque diciamo la nostra creatività è entrata pure in questo settore, creando un editor che consentisse di scrivere in italiano, quindi con le regole sintattiche, grammaticali, cioè tutte le problematiche, sì, che ha la nostra lingua molto più complessa rispetto a quella inglese, per poter creare delle avventure. E si fanno ancora oggi, tra l'altro ogni anno c'è un concorso di avventure testuali, c'è la One Room Competition, cioè creare delle piccole avventure testuali in italiano, e dove vince praticamente chi è la migliore. Che poi, ma spieghiamolo per chi non, magari non lo sa, cioè tu stai parlando di Inform, che è il linguaggio di programmazione con il quale si scrivono, tramite questo linguaggio di programmazione, che è una sorta di simile linguaggio corrente, si scrivono le avventure testuali, che ovviamente Inform è sempre stato un linguaggio costruito in inglese, è stato poi successivamente adattato con delle librerie per funzionare anche in italiano, e poi è stato addirittura completamente tradotto, anche se mi pare solo la versione 6, non la versione 7. Ora non so bene se poi ci sono stati successivi risvolti. Insomma, in realtà insomma, di materiale, di genialità, di espressione all'interno di questo paese, insomma, ce ne abbiamo avuto, questa è in dubbio. Resta sempre un po', Luigi, quello che dicevamo a inizio puntata, il vero problema, che comunque è un problema prettamente industriale, prettamente imprenditoriale, prettamente anche culturale, che comunque ha castrato completamente questo paese nei confronti di un'emergente potenziale industria che non si è mai fondata. Insomma, questo, sì, è sempre un po' lì, insomma, stiamo a capare. Poi tutto il resto, come abbiamo detto anche magari pure fra di noi fuori onda, insomma, è materiale col quale con Mario probabilmente torneremo anche su archeologia informatica e archeologia videoludica, proprio perché in realtà è lì che vogliamo puntare l'attenzione, perché per raccontare la storia dei videogiochi e per raccontare la storia dell'informatica si deve passare anche per Casa Italia in qualche maniera, e quindi prima o poi, come abbiamo, sì, detto, insomma, sarà un discorso che riporteremo in auge. E non voglio essere brusco, perché chiaramente mi dispiace, io, se sapete, voglio bene a tutti quanti, però poi purtroppo dobbiamo anche un po' cercare di stare un po' nei tempi, Mario, insomma, se vuoi partecipare, noi siamo strafelici, perché ci sono due punti fondamentali di conclusione della nostra puntata, che adesso Luigi ci va a illustrare, che insomma anche la tua opinione sarebbe stra gradita, insomma. Sì, fa piacere, certo. Ok, vai Luis. Dunque, il primo punto che volevo porre alla vostra attenzione era riguardava fondamentalmente una realtà, se vogliamo chiamarla didattica, che è stata portata avanti dalla Digital Bros, quindi si parla proprio di sviluppatori, di aziende italiane, che esce fuori un po' dall'ambito accademico solito degli atenei, dove invece vengono portate avanti simili iniziative. Allora, il punto ho scritto: parlando di possibilità di sviluppare in Italia, Digital Bros è una multinazionale nata a Milano nel 1989, l'unica italiana ad essersi diramata in USA, UK, Francia, Spagna e Germania, con un totale di 150 dipendenti. Con la sua Digital Bros Game Academy intende creare un corso fuori dagli atenei pubblici, cioè gestito da chi lavora nel settore, un corso che ha intenzione di divenire polo di riferimento per lo sviluppo dei videogiochi in Italia, creando professionisti in tre diversi settori, quali game developer, game designer, artist e animator. Grazie al patrocinio della SIAM, la società di incoraggiamento arti e mestieri, che ricalca quella britannico della Train to Game, Digital Bros Academy si propone di far restare gli italiani in Italia a sviluppare videogiochi per PC, console, Android e iOS. Ora la domanda è questa: potrebbe questo rilanciare le possibilità creative di una futura Italia di videogiochi? O l'Italia avrebbe bisogno di qualcosa di radicalmente diverso? Ovviamente non sto parlando se potrebbe questo rilanciare soltanto, potrebbe Digital Bros, parliamo di questo modello. No, certo, se il modello ovviamente può anche essere replicato e quindi moltiplicare le sue potenzialità di risultato. Allora, partirei da Giuseppe, perché... Sì, scusate, volevo aggiungere cosa. Praticamente nel link che ho inserito all'interno di questo testo, sì, ovviamente si fa riferimento a una cosa in particolare, cioè che questa accademia vuole, è previsto proprio all'interno di attività di laboratorio, il contatto fra le aziende sviluppatrici di videogiochi, sì, e i loro corsisti, che sono a numero chiuso, quindi c'è una selezione già alla base. Questo per dire che non c'è quindi lo studente lasciato a sé, cioè viene formato e poi trovati i contatti da solo e poi vattene. No, le tue competenze, esatto, vengono fatte valere dove si sviluppa il videogioco, e sicuramente in Italia, quindi non all'estero. No, magari faranno anche dei stage formativi anche fuori, però per dire, il lavoro che faranno, quindi anche gli stage e la mano d'opera, chiamiamola così, verrà fatta all'interno di aziende italiane che si occupano di game development in qualche modo. Ecco, tenevo a precisare questo, insomma, di cui tra i partner, come ho già detto, appunto, ci stanno comunque alcuni che abbiamo già parlato prima, come anche lo stesso studio Evil, Forge Reply infatti io volevo iniziare da Giuseppe, proprio perché, esatto, Giuseppe, Digital Bros Game Academy, questa è quella, diciamo, seria, comunque. Appunto, dico, cioè, nel senso, cioè, l'unico mio, diciamo, per quanto è interessante eccetera, l'unica mia perplessità è a fronte poi, diciamo, delle persone che, non mi ricordo esattamente questo da quanti anni è già in vigore o se è solo uscito nell'ultimo anno, ma a fronte, diciamo, dei primi che usciranno, no, da questa accademia, da questi corsi, poi, diciamo, effettivamente non essendoci però poi una delle grosse realtà, a parte appunto quelli che i stessi partner che partecipano ai corsi, che chi è che ti assume, chi è che ti dà appunto la possibilità di restare in Italia per sviluppare giochi, e questo è il mio problema. Cioè, mancano però anche delle grosse realtà che ti possono fare da... Beh, grosso è vero, però non è che non ci stanno in realtà. No, comunque che non ci stanno. Studi di sviluppo si stanno moltiplicando. Il problema a fronte di questo, cioè, a parte che non so appunto i numeri, quindi non so quanti ne potrebbero uscire l'anno prossimo, tra 2-3 anni, no? Metti caso, ne escono 100 corsisti, dai. Dico, secondo te tutti questi 100 riusciranno comunque a trovare un impiego come sviluppatore, game designer, cos'altro poi c'era tra i corsi? Vabbè, questo però vale pure per il master della Bocconi, sì, in economia, cioè, vuoi dire, non è, sì, detto che tutti quelli che poi dopo diventeranno imprenditori o industriali, insomma, cioè... Però conta una cosa, che il mercato qui è molto diversificato. Parliamo di sviluppo console, PC, Android e iOS. Sì, quindi anche se loro si mettessero a creare una piccola società, una startup fra di loro, proprio dire guarda proviamo e poi vediamo dove arriviamo. Già le console, poi ne parliamo magari nel prossimo punto, hanno un sistema di snellimento totale dei rapporti amministrativi, sì, eccetera, che prima invece erano delle gatte da pelare per chiunque, sì, volesse, sì, mettere su un progetto simile. A iOS si può tranquillamente lavorare sulle piattaforme esistenti. Cioè io penso che proprio la diversificazione di mercato che c'è oggi è una possibilità che rende realistica l'eventualità accademica, cioè si può fare accademia e si può in qualche modo poi gestire ciò che viene fuori. Ovviamente non bisogna avere in mente Dragon Age Inquisition, no, è chiaro, appena esci, no, ma anzi ti dirò di più, per vederla ancora più sul ristretto, e qui magari mi lancio anche Carlo e Gianluca e poi Mario, se io Luigi Marrone, Giuseppe, Mario, Gianluca e Carlo siamo al corso della Digital Bros Game Academy, a un certo punto durante questo master ci conosciamo, facciamo esperienze magari appunto con quelle che sono ovviamente i contatti che loro ti mettono a disposizione, roba del genere, potremmo anche decidere non di essere assunti da uno sviluppatore tizio Caio, ma addirittura di provare noi a fare un investimento magari in prima persona e dire ok, sì, facciamoci il nostro piccolo studiolo e vediamo che cosa ne esce fuori, perché in realtà in un mondo come questo, sì, oggi soprattutto nel mondo del digitale non puoi stare a aspettare il posto di lavoro sindacalizzato, sì, no? Nel senso, sì, comunque un po' ci devi scommettere su te stesso, altrimenti poi diventa un po' un problema. Carlo, tu che ne pensi? Beh, ma è un progetto ambizioso, devo dire, cioè ovviamente se dovesse poi rispettare quelli che sono i presupposti è una cosa bella, insomma mi piace soprattutto l'ottica del far rimanere l'italiano in Italia, no? Per esprimere quello che è il suo talento, quella che è la sua passione, no? Da riversare poi sul prodotto, è una cosa bella, però è una cosa che sta scritta, insomma, un po' come per ora dice, è sulla carta. Tutti quelli, no, che mi chiedono per dire ma un corso di doppiaggio, ma che ne dici? Io dico che ci sono tanti corsi di doppiaggio seri, però a fronte di un investimento, perché poi parliamo comunque di un investimento, immagino che anche questo non è da meno, insomma, a livello di iscrizione e tutto il resto si aggira, però, sui 2000 rotti euro, immaginavo euro, insomma, vabbè, sì, però se sopportano, dai, cioè, se li devo dare a questi o li devo dare a Roma, cioè, è anche un po' più economico di quell'altro, tra l'altro, dai, ragazzi, cioè, però ecco appunto, fate di poi sempre le stesse cose, no? Poi dopo divento tracotante, come dice Mario. Poi se pensi che appunto vai a fare il corso lì, 2000-3000 euro quello che è, poi esci e sviluppi videogiochi, non lo so, cioè è una cosa un po' appunto come i corsi doppiaggio, che uno fa il corso doppiaggio e dopo fa il doppiatore, no, magari no, cioè, forse però è diverso, perché qui è, cioè, mentre che il doppiatore comunque è una professione legata a un certo tipo di meccanismo, comunque, mentre comunque lo sviluppatore, io Carlo Burigana, ripeto, e Luigi Marrone ci mettiamo insieme, diciamo oh, ragazzi, prova a farmi, è venuta questa idea, mi piace questa idea, sì, bellissima, allora, faccio la grafica, io sviluppo nel codice per iOS, io faccio questo, faccio quell'altro e proviamo a vedere che cosa ne esce fuori, no? Poi lo presentiamo. Quello lo puoi fare anche se tu hai lo puoi fare anche, insomma, indipendentemente dal corso, quanti team di sviluppo ci sono. Beh, però loro ti fanno fare un'esperienza, loro ti garantiscono che un'esperienza del contatto con l'industria, voglio dire, no? Però se hai già un'infarinatura di tutta questa cosa, se hai già una passione, se vieni magari da un passato appunto come quello che di Giuseppe, io mi tolgo il cappello, insomma, davanti a la tua preparazione, a Giuseppe appunto, che comunque proviene da un passato di addirittura una preparazione genitoriale, insomma, per quella che è la programmazione, che in Italia io sfido, insomma, penso anche che si continuino il papà di Giuseppe ci ciancica a tutti tranquillamente, gli spicciamo casa noi, esatto, se ha voglia, infatti, anzi Giuseppe quando ti serve io ti vengo a fare spicciare casa, no, ma dico sul serio, non vuol dire delle battute, no, nel senso, veramente comunque poi è una persona Poi tra l'altro della sua generazione gli dà anche un'unicità, no, per certi versi. Assolutamente, non è affatto tanti genitori, no, persone magari dell'età del papà di Giuseppe alla sua età, cioè alla sua epoca, facevano gli sviluppatori, cioè, Io già l'ho detto, ragazzi, sia Simone che Giuseppe bisogna fare una puntata col papà di Giuseppe, bisognerebbe informatica, esatto, venire dentro. La prossima volta che risale a Roma la congeniamo prima. Allora, Mario, tu che dici? Sto Digital Bros Game Academy. Io ho una grande speranza, perché poi di sperare alla fine non è utile. Costa niente, diciamo. Anche se diciamo l'humus, l'ambiente italiano non è che dà grandi prospettive per poter pensare ottimisticamente. No, io piuttosto ascoltandovi pensavo a quando sfoglio le pagine di Edge, le ultime pagine dove ci sono gli annunci. Sì. E ci sono sia annunci di scuole blasonate, di corsi di videogiochi, ma anche di programmazione generale e anche di creazione di motori 3D, eccetera. Tra l'altro ci sono questi annunci di queste scuole che comunque garantiscono il lavoro una volta finito i corsi e che danno una sorta di laurea, quindi parificata e utilizzabile in tutto il paese, diciamo con una certa importanza. Io mi chiedo, Digital Bros, che cosa darà come titolo, diciamo, spendibile nel territorio italiano, laddove il videogioco viene ancora visto come giocattolo, non come, certo, creatività tecnologica. I giochini, certo, artistica, eccetera. Quindi e poi facevo il paragone con un numero infinito di corsi di comics che si possono avvicinare a livello di, diciamo, di arte, di creatività necessaria a questi corsi di videogiochi, che spesso e volentieri sono degli pseudo corsi, perché poi chi è che li ha frequentati forse sa disegnare peggio di quando era entrato. Spero che il Digital Bros sia una impresa di istruzione seria e che non sia uno, diciamo, degli innumerevoli carrozzoni solamente per non so, per crearsi una immagine, ma con pochissimi contenuti. Piuttosto, per quanto riguarda il dopo del corso, in Italia io penso che creare videogiochi in Italia per un mercato italiano penso che la richiesta sia praticamente nulla. Piuttosto queste specializzazioni che vengono partorite da queste scuole potrebbero essere rigirate in quello che è il gamification, cioè l'applicare tutto il patrimonio, tutta la conoscenza che viene dalla creazione del videogioco, versarla su altri software, cioè interfacce per l'utilizzo più semplice, più diretto al pubblico di, non so, di desktop, di applicazioni multimediali, eccetera. Quindi comunque la conoscenza che viene dal settore videoludico può essere utilizzato pure per creare software di utilizzo quotidiano. Chiudo con una piccola lacrimuccia, ricordando uno stand che ho visto all'ultimo GameCon di Napoli, dove c'era praticamente una sorta di scuola finanziata dal comune di Napoli, tra l'altro, per un corso di programmazione orientato ai giochi indie, dove praticamente non c'era nessuno, c'erano solamente questi signori gentilissimi che attendevano qualcuno che si avvicinasse allo stand, ma tutti i ragazzini giovani, che dovrebbero essere quelli più incuriositi verso queste porte alla programmazione, erano tutti rivolti all'ultima novità della Electronic Arts, tutti a giocare a FIFA, ma a nessuno che chiedeva informazioni. E questo, diciamo, quello che queste sono le mie considerazioni su. Beh, sì, ma questo purtroppo è un po' il segno dei tempi, anche come questione. È un peccato, voglio dire, perché poi la creatività italiana è innegabile ed innegata, cioè esiste. Sì, esisteva, sì, sicuramente. No, vabbè, esiste ancora, però vabbè, ho detto, poi bisognerebbe vedere anche qui. Mario dice qualcosa di drammaticamente purtroppo reale, cioè nel senso le persone, non i giovani in questo caso, chi ha l'immagine, la percezione del videogioco più comunemente intesa, non pensa che possa essere creativo, non pensa che ci possa essere qualcosa dalla piccola idea che diventa geniale e che poi ti può anche far portare a pensare in grande. Pensa a Electronic Arts, pensa a Call of Duty, pensa a FIFA, pensa alle grandi realtà che sono comunemente accettate da tutti, quindi danno un cuscino di sicurezza sulla definizione del videogioco, che però è chiuso, è un videogioco dove tu non puoi in qualche modo, paradossalmente puoi interagire, ma non puoi in qualche modo pensare di poter modificare o di fare di testa tua, e questo secondo me è nella percezione che si crea in questo tipo di personalità di approccio al videogioco. Poi c'è la mancanza di idee, la mancanza di poter pensare, di poter fare da soli, poter creare, poter avere un progetto più strutturato. Ecco secondo me dove può operare bene un'iniziativa, un modello tipo la Digital Bros Game Academy, cioè del fornire un sistema di riferimento sul videogioco, sulla cultura dello stesso, che ti porta ad un'altra considerazione sulle sue possibilità. Perché fino a quando trovi davanti a un FIFA 13 o un Call of Duty, tu non hai possibilità, non le contempli proprio. E no, quello no, certo. Ma dico, l'ho quello sentito oggi, detto io, prima. Natale è stato quando tremendo. Cioè non puoi dire c'è uno sbarramento costituito da un prezzo da un costo di ingresso molto alto. Si trattava di corsi gratuiti finanziati dal comune, cioè... Eppure non c'era proprio interesse da parte dei giovani che passavano. Vabbè, era un po' quando dicevamo, no? Tu il Commodore 64 lo accendevi, dovevi conoscere il comando per caricarlo, il gioco almeno una cosa la dovevi fare, poi dopo è arrivato, cioè con l'amica dovevi solo infilare il dischetto, cioè nel senso, in realtà è comunque il passaggio dei tempi. Oggi noi non produciamo più contenuti, diciamo, li usufruiamo, capito? È un po' l'epoca di iTunes questa, ragazzi, cioè, quindi non è che c'è tanto da aggiungere rispetto a questa questione qua. Secondo me i ragazzi non sono più neanche più abituati a essere curiosi, no? Delle proprie potenzialità, quindi cioè, non è una cosa che sì, nella sua drammaticità a me non, purtroppo ti dico, non mi stupisce neanche. Comunque no, senti anche Gianluca in merito a, sì. A no, vabbè. Sì, io casualmente, guarda, qualche giorno fa, poco prima di tornare dalle vacanze, mio cugino mi ha chiesto cosa ne pensavo di quella scuola di Roma e gli ho dato indicazioni per la scuola di Milano. Ha fatto bene. Sì, sì. Però l'unico gli ho fatto vedere anche, tra l'altro, quel bellissimo videogioco chiamato Wingers. Vabbè. E no. Vabbè, no, quello è pubblicità buona, fidati. No, però voglio dire, io credo che va benissimo fare una formazione ai ragazzi, perché appunto, come diceva Mario, c'è la gamification, quindi tu comunque sfrutti quello che impari in tanti altri campi. Però il videogioco, poi rifacendoci anche a quanto detto per il videogioco degli anni 90 italiano, è qualche cosa di fatto di tante componenti e conta moltissimo l'esperienza, no? Quindi è importantissimo fare dei lavori, fallire e riprovarci. Il problema è che oggi i numeri del mercato indie sono estremamente scoraggianti per quanto riguarda le vendite. Nella maggior parte dei casi, tutti i vari studi che nascono, tutte le varie piccole iniziative possono essere anche apprezzate, però non hanno un'effettiva solidità economica, cioè tu non puoi vivere di quello. Quindi secondo me, un po' per l'entusiasmo, per la grande popolarità oggi dei videogiochi, tutti quanti si buttano a 20 anni per dire su queste cose qui, ma ci vuole molto tempo. Io non ricordo grandi nomi di successo che siano arrivati da una scuola di videogioco, forse perché sono ancora troppo nuove, però i grandi geni, Edward McMillen, di cui ha parlato Giuseppe Saso con The Binding of Isaac, è uno che ha fatto dei videogiochi da solo, cioè non ha fatto un corso, aveva delle idee, aveva un talento, si è messo a programmare. Guarda, cioè, Gianlu, però posso dire una cosa, io sono al 110% d'accordo con te, ma secondo me secondo me non serve, ok? Ma quello che è importante di un esperimento come questo è il creare un modello, è creare comunque un movimento, capisci? Sì, cioè, sì, senso, ma cosa che in Italia manca completamente, cioè, certo. Certo, ma sicuramente è una cosa che è molto importante. Io vorrei dire ai ragazzi, che sicuramente non ci ascoltano, tra l'altro, che è un... Come sarebbe a dire? Sì. Che è qualche cosa che va... è un processo lento quello dell'imparare a fare i videogiochi, non è che... E forse ci vuole un talento innato... cioè, per quanti giochi ci sono, non, ci sono troppi programmatori per i giochi che veramente poi hanno successo, no? Quindi vorrei dire, fatelo, perché è una cosa che potrebbe essere utilissima e divertentissima, però comunque credo che anche questi corsi prima dovranno cominciare e poi dovranno migliorarsi. Comunque il solco è questo, insomma, sono felice che ci siano e spero che non... Che i ragazzi, insomma, non si illudano e che siano disposti poi a spendere appunto quello che imparano in qualsiasi altro campo, insomma. Guarda, ti devo dire la verità, se quando aprirò la mia software house, certo, Luigi Marrone sarà sicuramente l'art director, Mario sarà sicuramente il produttore esecutivo, Carlo sarà il sound designer, ma tu, certo, sarai l'uomo della propaganda e dell'ottimismo. Sì, sì, vai, tranquillo. Dai, scherzavo. Comunque, allora, andiamo avanti, Luigi. Sì, chiudiamo, allora, andiamo all'ultima botta, così. Sì, questa ne parlo, la leggo, parlo un po' io e poi lascio la parola a voi. Tra le ultime pubblicazioni, mi sembrava doveroso in qualche modo notificarlo, tra le ultime pubblicazioni italiane su console PlayStation di attuale generazione c'è da menzionare Murasaki Baby di Avosonico su PlayStation Vita, Space Whip Brawl di Forge Reply e Futuridium di Mixed Bag, tutte scaricabili dal PlayStation Store. L'apertura di sistemi chiusi allo sviluppo indipendente è sempre a favorire, grazie ad un approccio più cauto, l'investimento di risorse in progetti contenuti che forniscono altissima visibilità. Quali potrebbero essere gli scenari di sviluppo per videogiochi italiani in futuro? La mentalità del piccolo studio di sviluppo indipendente è limitante rispetto alla possibilità di concepire una grande produzione, oppure vi piacerebbe che l'Italia vedesse più in grande? Prima di rispondere vi dico appunto che avendo avuto a che fare da vicino con il titolare di Mixed Bag, Mauro Fanelli, ho scoperto, diciamo, in qualche modo come Sony e in particolare chi adesso fra i grandi detentori, diciamo, dei grandi marchi di videogiochi, quindi parliamo di Microsoft, in particolare Nintendo, si avvicinano al mondo dello sviluppo indipendente e che garanzie danno. Quello che posso dirvi è soprattutto l'agevolazione dal punto di vista amministrativo, quindi fondamentalmente tutto quello che prima era rimesso allo spiacevole in qualche modo lavorato controllo della software house come ufficio per quanto riguarda pagamenti, per quanto riguarda controllo vendite, per quanto riguarda il marketing e tutti gli altri aspetti con la durata del prodotto, ci pensano direttamente le Sony o Microsoft o Nintendo, chi per loro. Quindi praticamente arriva il billing a fine mese, sai quanto hai guadagnato, quanto è stato venduto, il lordo, il netto e l'accredito sul tuo conto corrente. Quindi c'è tutta una unificazione di servizi che in qualche modo snellisce questo tipo di lavoro. Entrarci in contatto non è così difficile, bisogna stare un po' dietro a chi si occupa di chi fa da talent scout, chiamiamolo così, fra questo sviluppo, quindi cene, in qualche modo eventi, meeting, tutto, mostrare sempre il proprio prodotto fino ad ottenere un'attenzione che ti porta poi al controllo qualità, al contratto e alla pubblicazione stessa. E questo è quello che, insomma, mi è stato detto e che in vari speech poi anche lo stesso Fanelli, Mixed Bag, che ripetiamo, sviluppo indipendente, casa software torinese fatta da due sole persone. E adesso non mi ha parlato ovviamente delle entrate, so soltanto che quando vendettero Futuridium EP, la prima versione abbastanza grezza su iOS, ricavarono circa 7.000 euro, questo per farvi un'idea, su iOS, sulla prima pubblicazione, videogioco sconosciuto fondamentalmente su iOS, però buttato lì. Non oso immaginare quanto abbia potuto rientrare, mi auguro insomma una bella cifra, pubblicando per Sony. E quello che volevo dirvi è cosa ne pensate voi di queste, di questo nuovo scenario? E potrebbe in qualche modo delineare quella che poi diventerebbe una realtà canonica sul futuro del videogioco italiano? Oppure è limitante questa mentalità perché in qualche modo rimane ancorata a un piccolo investimento fatto privatamente, molte volte con dei sacrifici diciamo minimi, se non in termini esistenziali, se bisogna programmare per tanto tempo su un grande, su una piccola grande idea, oppure diciamo vi piacerebbe che appunto l'Italia vedesse un po' più grande, volete vedere una grande produzione italiana che quindi va a ridefinire totalmente questo tipo di realtà micro. Allora, do la parola a Giuseppe dicendo però che secondo me la grande produzione italiana, lo stato attuale, secondo me non ci sono proprio le basi. L'importante è costruire intanto il micromondo, no? Poi dopo vediamo un po' che succede, secondo me, anche perché non essendo mai esistita l'industria in Italia, è chiaro che non è possibile a 20 anni di ritardo improvvisamente, no, buttare le basi per grandi produzioni, per me, però poi questa è la mia opinione. Giuseppe. Allora, anche a me piacerebbe ovviamente vedere un grande punto di sviluppo come una rockstar, come hai detto tu, uno strano, no? Però tipo un te rubo l'auto, esatto. 5 però penso che questo sia una cosa almeno nel breve periodo decisamente poco probabile. Invece sono, per quanto da un lato effettivamente lo è limitante, tutte diciamo queste agevolazioni che fino a una decina d'anni fa non ci stavano per gli sviluppatori indipendenti, comunque per i piccoli studi di sviluppo, appunto anche da parte di grossi publisher nonché produttori di hardware, questo diciamo è, secondo me la vedo come un passo avanti, è quello che diciamo ha portato in un nuovo tra virgolette rinascimento italiano dell'industria del videogioco, no? Perché se pensate com'era la situazione fino a 10 anni fa, no, era, cioè, c'era solo appunto Milestone e basta quando si parlava di sviluppatori, sì, di software house italiane, quindi tanto di cappello a questa diciamo nuova forma di mecenatismo, no? Da parte dei big, delle hardware house. Però tutto dall'altro lato è certo, se poi anche con la crisi che abbiamo, no? Un po' in tutti i settori, le aziende pur di non fallire si accontentano comunque sempre a rilasciare giochetti, non vedremo appunto mai quella grande software house che tutti sogniamo, no? Certo. Gianluca, io penso che, vabbè, come dicevi tu, per ovvi motivi ci sia bisogno di rimanere un po' con, sì, i piedi per piedi terra, per terra. Sì. Nonostante io sia molto ottimista, come tu sai. Però ecco, secondo me da questo punto di vista ci può essere un aiuto fisiologico, diciamo, dell'evoluzione tecnologica, perché adesso ci sono moltissimi tool, moltissimi editor che ti aiutano a fare grafica, ti aiutano a fare animazioni, che è una cosa molto complicata. Io sto studiando quindi, molto da questo punto di vista. Abbiamo notato, gruppi privati. E il mio ottimismo dice che farei molta strada. Sì, e comunque, ecco, secondo me tanto vale, cioè, dato che i soldi comunque non ci sono, si cerca di coltivare delle buone idee, si fa quel che si può, tanto comunque con piccoli mezzi si possono fare dei buoni giochi in ogni caso. E poi quando le cose saranno mature, chi lo sa, magari Rockstar non ce ne saranno per un bel pezzo sicuramente nel nostro paese, però se si riuscisse a poter sviluppare dei giochi un po' più complessi come avventure grafiche, magari dalla grafica un po' più elaborate e cose del genere, beh, perché no, insomma, potrebbe essere più facile in un futuro neanche tanto remoto, secondo me. Quindi tempo al tempo, secondo me, ci sono le possibilità. Eppure in questo senso una Telltale italiana, secondo me, potrebbe. Vabbè, ma c'è l'Adventure Production di Cristiano Calindo che attento, il nostro amico, al attento nostro, che ci potrebbe essere una nuova software house che emerge prima o poi. Ok. La Morgan Soft, ricordiamo, esatto. Morgan, No, io ho una visione, vorrei un attimo prenderla un po' alla larga, perché se vogliamo guardare il mondo videoludico attuale, cioè le produzioni, ultimamente stanno generando parecchi piatti immangiabili, secondo me, e parecchi mostri, come i free to play, che personalmente ritengo siano il punto più basso raggiunto da questa industria da quando è nata, in pratica. Oppure i titoli. Questo lo dici perché ti arrivano le mie notifiche dei Candy Crush, chiaramente. Sì, sì, che penso che toglierò l'amicizia a Pizzi. Oppure titoli solamente multiplayer, che sono, personalmente sono assolutamente indigeribili. Oppure tutta la pletora di schifezze casual inutili, assolutamente inutili. Dall'altro lato ci sono invece titoli multimiliardari tipo GTA, che è costato più di un quartiere di una media città, che comunque richiedono costi di produzione altissima, per cui nessuna normale società potrebbe, diciamo, competere, poter creare prodotti di quel genere. E nel mezzo che cosa c'è? Ci sono i titoli indie. Tra l'altro l'indie fino a qualche anno fa era solamente un settore che si poteva sviluppare su PC. Oggi grazie ai canali indie di PlayStation 4, PlayStation 3, l'Xbox Live Indie, ma anche con le applicazioni per iOS oppure per il Google Play, chiunque può con pochissima spesa procurarsi un tool di sviluppo e creare per queste piattaforme. Tra l'altro ci sono pure dei casi eclatanti italiani. Lo stesso Giuseppe Saso aveva intervistato in una delle sue ultime puntate dei programmatori di un GDR italiano, che ha avuto un discreto successo. Quindi realtà di questo tipo in Italia pure possono trovare la loro strada. Non dimentichiamo che grandi programmatori come sembra Braybook oppure Jeff Minter erano da soli, e da soli hanno creato dei prodotti eccezionali, voglio dire. Dall'altro lato ci sono invece prodotti italiani come Gioventù Ribelle, che pur nascendo da un tool di persone non professioniste, quindi si potrebbero incastonare in quella che è la produzione indie, ha dato esiti che forse sarebbe meglio se Luigi Marrone potrebbe descrivere con la sua dialettica poetica. Sì, sicuramente più, non so, meno critica della mia. Esatto. In ogni caso io penso che se c'è un futuro per la produzione italiana in questo campo è proprio sull'indie, perché poi dall'indie partono produzioni più importanti. Tantissimi titoli nati come indie poi sono stati sviluppati più approfonditamente, e oltre la prima versione nata povera, diciamo, generalmente su PC, poi hanno avuto delle versioni arricchite su console oppure su altre piattaforme. Sì, ma questo in realtà è l'era del digitale e della grande democratizzazione della creatività. In realtà, voglio dire, è vero che da una parte oggi si tende a essere più consumatori di contenuti che produttori di contenuti, ma è vero pure che ci sono più strumenti per produrre a livello indipendente, cosa che prima non si poteva fare. Questo lo vediamo nei videogiochi, lo vediamo nel cinema, lo vediamo in tantissime altre situazioni. Carlo. Sì, io sono d'accordo. Come dicevo prima, insomma, ho detto a più riprese prima, comunque il mercato indipendente è sicuramente una scena importante che si sta, per forza di cose, insomma, navigando alla grande, insomma, sta dando anche delle grandissime soddisfazioni, anche probabilmente anche inaspettate, soprattutto in una scena console, perché appunto, come avete detto voi, nasce tutto dal PC e poi ha avuto questa deriva su console, che probabilmente pochi si aspettavano questo successo, o magari sì, insomma, chissà, magari è stata proprio pensata ad arte, insomma, dalle grandi società, insomma, di portare la scena indipendente anche su console, che ha comunque, ma quella comunque è stato sì, ma quello è stato comunque il grande passaggio. È stato un momento epocale, perché in realtà ha salvato il mondo indie, e dall'altra parte ha permesso comunque a una grande fetta di pubblico di conoscere questo ambiente. Sì, in realtà, tra l'altro, poi non a caso alcuni dei giochi più attesi di questo anno sono proprio indipendenti. indipendenti, se pensiamo a No Man's Sky, insomma, che non solo quello, insomma, parlando di giochi italiani, non avete citato per esempio Nero dei Kick Up, che tra l'altro loro stanno all'Euro qui vicino, è incredibile. L'Euro è un quartiere di Roma, per chi è fuori dal raccordo e, per quelli che sono della provincia, esatto, di Roma e quindi insomma bravissimi, insomma, stanno portando questo gioco su Xbox One che insomma sembra veramente una perla, insomma spero di averne a che fare io, anche spero di scriverne, perché quando l'ho visto molto sorpreso, insomma, poi molto suggestivo, sapendo che era italiano, complimenti, bravissimi, insomma. Per cui sì, mercato indipendente, sì, pollice alto per il mercato indipendente. Non credo che in Italia nessuno si aspetti, nessuno ovviamente che abbia un minimo appunto ben in mente quello che abbiamo detto fino adesso, nessuno si aspetti questa grandissima, come dire, presa di posizione del mercato verso queste produzioni che per noi comunque io penso che saranno sempre inarrivabili, ma la trovo insomma una cosa appunto fisiologica, forse è anche giusto che sia così, insomma non è sempre detto che per forza bisogna illudersi di sapere fare le cose meglio degli altri, non è sempre così, no perché... Ma secondo me io vedo invece belle tacche che metteremo nei prossimi anni da questo punto di vista nell'ambito indie. Allora sì. Luigi, io come al solito di Etrologia Videoludica ha fatto la sua enorme panoramica su ovviamente un tema che ci tenevamo e alla fine è venuto fuori sto speciale gigantesco, infatti adesso andiamo a chiudere, niente posta, niente rubriche, niente, andiamo proprio a chiudere completamente, niente assolutamente, però ecco, sembrava giusto dare l'opportunità comunque a Luigi di chiudere, magari di chiudere il cerchio rispetto a questa grossa discussione che abbiamo fatto, che più o meno insomma ci ha trovato quasi sempre d'accordo, insomma, anche se non su tutto, come è giusto che sia in una conversazione intelligente come quella che cerchiamo di fare qua di Etrologia Videoludica. Sì, la puntata è nata più che altro per interfacciarci fra noi e per scambiare un po' di pareri. Io più che da contributors in modo specificamente diretto ai contenuti, ero un ascoltatore. Mi piaceva proprio sentire, avere uno sguardo, avere un'opinione da voi in modo che potesse in qualche modo suggestionarmi e creare un precedente, perché non ho mai discusso con nessuno di questi aspetti. Quindi più che concludere sull'aspetto in sé, concludo dicendovi grazie, perché il vostro contributo e le vostre riflessioni, la vostra esperienza mi hanno portato ad avere qualcosa che prima non c'era, cioè una visione a 360 gradi sul discorso del videogioco in Italia. Quindi grazie a voi. Beh, ma grazie a te, perché comunque ci hai dato l'opportunità di aver affrontato, perlomeno di aver aperto magari una discussione su un tema, insomma, che era tanto che magari era lì nell'aria, ho detto, qualcuno l'aveva anche chiesto, in realtà poi non l'avevamo mai affrontato, forse che non avevamo ancora bene l'impronta giusta per poterlo fare, forse questo era il momento giusto per farlo, e quindi è stato un piacere, quindi grazie a te e soprattutto insomma speriamo poi, ecco, magari quando ti verranno altre idee di quelle profonde come questa, insomma, noi siamo sempre a disposizione, sai, di Etrologia Videoludica, è la casa nostra e di tutti quanti. Allora Giuseppe, un saluto e un pensiero finale? Ma speriamo che continui ovviamente a crescere questa industria italiana, che non faccia più passi falsi come quelli che abbiamo avuto, e niente, e buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, risentiremo prestissimo Giuseppe ovviamente, sì, nell'Occhio del Beholder, quindi www.occhiodelbeholder.it. Gianluca? E ringrazio anche io Luigi, che è fantastico pure nella conclusione del suo intervento, sì, del suo, vero, sì, sempre come al solito. E niente, anch'io ovviamente spero di che ci sia un'impronta italiana nel videogioco, perché sarebbe bellissimo. Penso che l'indie possa dare non solo all'Italia ma a tutte, sì, le nazioni un'identità più forte, perché si può rischiare di più, si può mettere di più. Quindi rimaniamo tutti sintonizzati e vediamo come va. ciao a tutti comunque, buonanotte. Perfetto, allora su YouTube cercate Gianluca Santiglio, trovate il suo canale, iscrivetevi, guardatevelo, perché fa veramente un ha fatto, sta facendo e continua a fare un ottimo lavoro, e insieme a Giuseppe Saso, Gianluca Santiglio secondo me è l'acquisto più importante della stagione 2014-2015 di questa squadra di IPN, perché veramente insomma è stato importante far crescere anche un po' la qualità. Abbiamo insomma lavorato molto dal punto di vista tecnico, abbiamo lavorato dal punto di vista dello schema, del format, roba del genere, però ecco il miglior acquisto è ogni anno Pizzi, fidatevi. Il Pizzi, che boraggio, Pizzi è sempre no, io sono contento perché Gianluca è veramente uno in gamba, così come insomma tutti quanti, però nel senso andare a capare oggi persone che hanno la disponibilità di collaborare a un progetto a pro bono, veramente a sbafo come il nostro, è veramente complicato. Mario? Sì, no, io volevo ricordare, e ve lo giuro, cioè ve lo dico proprio con la mano sul cuore, che c'è stata un'epoca in cui esistevano società come la Genius, come l'Idea, come la Simulmondo. Sì. E quindi non è detto che siano morte per poi rimanere morte. E io spero che un domani torneranno. Ma lo sai che io ho sentito qualcosa in giro rispetto a questo, per ora non, forse non posso, vabbè, vai, scusa. Pure con nomi diversi, sì, no, ma non hai detto una cosa a caso, secondo me, in qualche maniera. Comunque, anche se io lo auspico con un humus politico e economico diverso da quello che è di oggi, altrimenti ci sarebbero proprio le premesse. E una cosa importante volevo, oltre a ringraziare Simone e Luigi dell'invito, volevo anche manifestare l'onore per aver parlato, per aver interloquito per la prima volta con Gianluca, con Giuseppe e con Carlo, che sono un piacere nostro. Sì, no, l'onore anzi è il nostro. Apprezzo molto, e quindi è stato così. Così abbiamo anche potuto sfatare il mito che nonostante l'avatar femminile su Facebook sei di sesso maschile, giusto? Esatto. Posso darne prova. A voglia, dice, a voglia. Ok. Ecco il videogioco italiano, come entrano gli italiani, si fanno conoscere nel mondo del videogioco. Macio 4. Della serie, non sapevo sviluppare videogiochi. Ma c'è una minchia tanto. Però se mobili sotto. Così, Italians do it better. Siamo veramente dei geni. Comunque, Mario, tu non so se c'hai qualcosa, vuoi pubblicizzare qualche link, qualcosa? Ah, io posso pubblicizzare il link dedicato a Luigi Marrone. Luigi Marrone, appunto, l'ho detto apposta. Selezione dal mondo marrone, sì, tramite Google, penso che lo trovate, dove trovate il meglio della produzione e lucubrativa del nostro filosofo videoludico Luigi Nazionale. Perfetto. Carlo? Io ringrazio voi, insomma ringrazio sicuramente tutti voi, in qualche modo mi scuso anche per la mia scarsa cultura sull'argomento. Ma sì, specie, bene, scusa, prostrati. Specie all'inizio, proprio veramente. Però insomma il mio pensiero della sera è sicuramente, che ne so, insomma non, mi sembra di aver già detto tutto su questa cosa, insomma. Viva sicuramente chiunque sia italiano insomma spera in un futuro insomma migliore per il nostro paese, e anche perché no, insomma anche in questo campo sarebbe bello, anche perché comunque insomma talenti ne abbiamo, per cui hai visto mai, come si dice. Vabbè, l'importante è che ci fanno giocare, poi dopo quello sì, quello in primis, poi il resto fate come vi pare. Allora, scherzi, il nostro il nostro Carlo c'ha i suoi contatti, dimmi, blog, scusa, personale carlomix.blogspot.it, e passione sound design, cercate su Facebook la pagina, piace, iscrivetevi, esatto. Mi sta dando anche diverse soddisfazioni, io ringrazio anche tutti i presenti che hanno comunque contribuito insomma alla condivisione del progetto, insomma, e grazie ancora, e continuate. Io penso che sia veramente una cosa fantastica. No, ma io ho detto se, allora, quando abbiamo fatto la nuova struttura, il nuovo format di DVL, e lui se ne è uscito con quest'idea, tutti siamo detti è il motivo per cui camperà il prossimo anno l'idrologia videoludica. Grazie mille. È interessante, comunque, veramente, veramente interessante. Grazie, grazissime proprio. Cioè, anzi, Gianluca, in particolare a te, proprio, che hai espresso. No, ma che figurati. penso che sia veramente tutto meritato, perché a parte che è una cosa diversa, è proprio fatta come meglio si può fare una rubrica. No, ma poi l'ultima dell'ultima puntata era fantastica, se siamo ammazzati, ovviamente si sente anche dall'intro che abbiamo fatto. Allora, www.dietrologiavideoludica.it è il nostro sito di riferimento, chiaramente ci trovate su Facebook e su Google Plus cercando Dietrologia Videoludica, e fate la stessa cosa su iTunes, dove potete abbonarvi al nostro podcast audio. Per il resto, dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra mail. Ci sentiamo fra altri 15 giorni con un'altra puntata. Adesso non vi svelo bene perché stiamo un attimo inquadrando, ci sono un paio di cose, e vi ascoltate Geronto Gamers alla fine, subito dopo la sigla, e c'è anche una guest star, quindi andate a delusso questa volta, e ci vediamo alla prossima puntata. Viva l'Italia e ciao a tutti. Flawless victory. Ciao, amici. Welcome to Geronto Gamer. Però bello. Sì, è vero, un buon prodotto, bella grafica, un motore sfruttato tutto, eppure la trama. Per essere un gioco tutto italiano è gran roba. Sì, è vero, ultimamente queste software house italiane si sono proprio migliorate. Certo, c'è voluto un po' di tempo, però dai, su. Dai tempi che cessavano i cialtroni in giro, ne abbiamo fatta de strada. Ma ti ricordi, aspetta, fammi cercare su internet i vecchi giochi, che ci stanno certe chicche. Ah, guarda che bel elenco. La paura, ci sta pure Gioventù Ribelle. Che state a fa'? Stiamo a vedere qualche vecchio gioco italiano e facce risate. Sentite, ma mi avete rotto questi giochi. State sempre davanti alla TV. Io non ce la faccio più a sopportarvi. Ma te non partecipi mai? Se partecipassi qualche volta, vedresti che ti diverti pure tu. Ma tu lo sai che io sono rimasta scioccata da quel gioco? Coso? Come si chiama quel gioco? Quello dove ammazzavo le persone? Heavy Rain. Sì, ma lo scopo non era da ammazzare i personaggi. Appunto. Guarda, prova, che ti costa? L'importante è che capisci che è tutta una finzione, non si fa male a nessuno, non muore nessuno per davvero. Dai! Vabbè, però io c'ho paura. Guarda, ti metto sto gioco che stava a giocare prima. Si chiama Vita su strada, italianissimo, e parla della storia di un camionista che per sfamare la famiglia fa orari impossibili e viaggi assurdi. E dai, è figo, è manco troppo violento. Oddio, fermatelo sto camion. Oddio, così ammazzo tutti. Scansatevi. Oddio, mamma mia, aiuto, non posso mica aprire l'occhi. Che fai? Io dici tu che quello è il filmato d'apertura. Ma no, restiamo a guardarla. Che divertente lo stesso. Faccio ridere? Ascoltatori di Dietrologia Videoludica, la faccio bene la vecchia. This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Days sales event. They have a whole lineup of rugged, all-wheel drive SUVs, CR-V, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HR-V with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Days clearance pricing today. This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Days sales event. They have a whole lineup of rugged, all-wheel drive SUVs, CR-V, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HR-V with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Days clearance pricing today.